qua, né di là, ma poi c'è questo, ma c'è anche quello. E per la più parte delle volte non si rendono conto che a forza di non voler stare né da una parte né dall'altra della barricata finiscono per essere loro stessi la barricata. E la barricata oggi è quella che, come stava accennando Giovanna, sta permettendo che si crei una pericolosissima soglia di non ritorno, calpestando tutte le leggi internazionali, calpestando il diritto dei popoli a decidere qual è il loro futuro, quale futuro vogliono scegliere per il loro paese, a calpestare chi è deciso a non chinare la testa all'imperialismo nordamericano che vuole riprendersi, per quel che riguarda l'America Latina, quello che è stato per lungo tempo il suo cortile di casa, e che vuole ripristinare una versione ancora più feroce della famosa dottrina Monroe. Della dottrina Monroe naturalmente i giovani non sentiranno certo parlare nelle scuole. Nelle scuole tra un po', anzi, siamo già al punto che non si può neanche più parlare di resistenza, di antifascismo, perché ti mettono in galera. Non si può dire che i decreti che ci propinano non hanno niente da invidiare a quelli che sono stati fatti durante il ventennio. D'altronde noi assistiamo a manifestazioni di arroganza fascista dappertutto in Italia e sono ancora troppo pochi quelli che si indignano nel modo giusto. E perché questo accade? Prima di tutto perché nessuno a sinistra ha voluto interrogarsi davvero sul perché siamo arrivati a questo punto. Tanti partiti, tanti compagni e compagni anche ben intenzionati hanno finito per ridursi a fare i propri congressi nelle cabine telefoniche, però non hanno messo in discussione niente della propria responsabilità, della propria parte in commedia. Si cambiano sigle, ma si continua con la stessa inutile arroganza, anche quando non si riesce a parlare neanche al proprio vicino di casa, al proprio compagno di lavoro, e quando questi compagni di lavoro, questi vicini di casa, se ne vanno dietro false bandiere. Voi ne sapete qualcosa perché state in uno dei centri di questo triste e preoccupante fenomeno che ha dilagato da molti anni a questa parte senza incontrare nessun argine. Appunto, perché non ha incontrato nessun argine? Perché questo argine è stato distrutto prima di tutto da quelli che avrebbero dovuto difenderli. È stato distrutto facendoci credere che non ci sono alternative al capitalismo, è stato distrutto facendoci credere che in qualunque trattativa non bisognava chiedere 10, ma neanche 5, neanche 2, ma semplicemente andare a canossa ancora prima di farlo la trattativa, perché appunto non ci sono alternative. Da chi? Dal bilancio del grande Novecento ha tratto solamente che si trattasse di uno scontro tra due totalitarismi, mettendo sullo stesso piano il comunismo e il fascismo, e vediamo a che punto siamo arrivati. Il Venezuela è una cartina di tornasole rispetto a tutto questo. Addirittura mi è capitato di girare in posti che sono stati bastioni della resistenza armata al nazifascismo, dove ce n'è una memoria forte ancora, e dove però il Partito Democratico è riuscito ad accompagnare i golpisti venezuelani ad andare a fare cose presuntamente contro la dittatura nei luoghi di resistenza. Cioè c'è un capovolgimento di simboli che passa attraverso ovviamente scelte concrete, che è spaventoso. Cioè le persone non capiscono più attraverso quale criterio devono valutare i fatti che accadono in Venezuela, ma anche quelli che accadono qua. Per cui noi li ospitiamo con i soldi, abbiamo ospitato, quando c'era il governo del cosiddetto centro-sinistra recente, fior fior di golpisti venezuelani con i soldi dei contribuenti, spacciandoli per difensori della libertà contro il tremendo dittatore Maduro. Nessuno si è interrogato su come si possa definire dittatura un 20 anni di governo popolare in cui si sono organizzate e svolte 25 elezioni, due delle quali perse dal governo bolivariano, in cui ci sono state centinaia e centinaia di osservatori internazionali certamente non favorevoli al socialismo, e in cui non si è non si sono messi in galera gli oppositori, nel senso che non c'è stata una rivoluzione tradizionale come quella di Cuba, non c'era la dittatura del proletariato, e non si sono messe fuori legge le classi dominanti. C'è un sistema di democrazia partecipata e protagonista, come la chiamano loro, che ha deciso di assumere fino in fondo il governo delle proprie straordinarie risorse. In Venezuela le prime riserve al mondo di petrolio, di oro, e coltan, e acque, eccetera, eccetera, e di ridistribuirle attraverso, per costruire una pace con giustizia sociale. Quindi non la pace delle bombe, non la pace del sepolcro, non la pace degli ipocriti, che più parlano di pace, più preparano le guerre imperialiste, chiamandole magari guerre umanitarie, perché attraverso la ipocrisia del linguaggio è passato quel disorientamento tremendo a cui accennavo prima. Venezuela dunque non solo non è una dittatura, ma basterebbe osservare questo, ma tantomeno è un uomo solo al comando, proprio perché il potere popolare costruito attraverso una delle costituzioni più avanzate al mondo prevede una partecipazione del popolo organizzato quanto mai assembleare, quanto più ampia. Niente si può discutere o si può decidere in Venezuela che non sia appunto partecipato. Venezuela è un paese in assemblea permanente, ci sono tutti i settori che vengono chiamati a decidere davvero, non tutti i settori popolari. Non come purtroppo avviene nelle democrazie borghesi, bisogna ricominciare a usare i termini del marxismo, in cui uno va a votare ma non decide niente, perché sia perché i partiti che sono stati scelti poi magari cambiano idea, si alleano con altri, sia perché quando le scelte hanno davvero a che vedere con la volontà popolare, pensiamo al referendum per i beni comuni, per i beni pubblici, non importa se il referendum vince, perché se non piace ai poteri, ai grandi multinazionali, alla troica, alle banche, eccetera, eccetera, questo referendum non conta, semplicemente. E quando va contro i dettami della Costituzione, la nostra per esempio, dice che l'Italia ripudia la guerra, e di guerre ne abbiamo fatte parecchie, dice che il fascismo è proibito, e di fascisti ne stiamo vedendo tanti, dice che la nostra è una repubblica basata sul lavoro, ma di lavoro ce n'è soltanto gratuito. Quando la Costituzione non piace, la si cambia, come per decreto, perché i parlamenti, da gran tempo che sono stati esautorati, dai tempi del famoso Pettinocrazia, attraverso una successione di decisionismi che hanno compiuto svolte autoritarie digerite attraverso scelte che... Scusate, non sapevo. Il signor Guaidó ha qualcosa da dire. Lo chiamano White Dog, per quello che sono vegano. Ci chiamiamo per fortuna quello nero, che già ci fa un po'. E appunto, alla crisi conclamata a livello globale delle istituzioni tradizionali, classiche, delle istituzioni della democrazia borghese, in Venezuela si è reagito con la vittoria elettorale dell'arco di forze chaviste, che hanno messo insieme tutte le forze in campo che non ne potevano più di quel sistema di potere. Da noi la stessa reazione, privata della coscienza forte del bilancio del Novecento, ha prodotto il governo che abbiamo qua. Quindi perché? Proprio perché c'era stata una dismissione dai temi forti, dai contenuti forti del socialismo in tutti questi anni. Le peggiori leggi sul lavoro, le peggiori leggi sulle pensioni che i professori famosi hanno fatto passare hanno avuto il visto bueno di quella ex sinistra che a forza di compromessi ha finito per coincidere con gli stessi obiettivi del nemico che avrebbe dovuto combattere, o comunque per non difendere più gli interessi di quelli che avrebbe dovuto difendere, cioè i settori popolari. E quindi ci hanno fatto credere a vari livelli, dai giovani agli intellettuali, che certamente non hanno mai brillato per storia, in coraggio, in Italia, ma anche ai compagni di buona fede, che insomma, se si continuava a utilizzare i parametri del marxismo, se si continuava a usare e a pensare alla storia come storia di lotta di classe, quindi a mettere il conflitto al centro, si era trogloditi che di certo non sarebbero stati invitati nei salotti buoni o ai tavoli di discussione, non parliamo delle televisioni, perché da quando c'è stata un'altissima concentrazione in poche mani, Berlusconi l'ha iniziato questo processo, non solo è scomparsa una voce alternativa, ma alla fine, cambiando le leggi elettorali, è scomparsa anche dal Parlamento la possibilità che si senta il parere delle classi popolari. D'altro canto, tutti quelli che sono stati eletti, quasi tutti, andate a contare quanti operai ci sono in Parlamento negli ultimi anni. Questo è un dato molto preciso che indica che cosa è successo in termini di disastri veri fra le nostre file, non soltanto quello che stiamo vedendo come conseguenza, cioè le destre sempre più forti eccetera, però le destre, il loro torto discorso l'hanno sempre potuto portare avanti con chiarezza, cioè siamo arrivati al punto che si sentono delle nefandezze e queste nefandezze razziste, xenofobe, della peggiore specie, ultra anche premedievali, diciamo, che non si pensava neanche che si potessero tornare a sentire, e hanno costruite i media sono i grandi attori dei conflitti di nuovo tipo, sono quelli che preparano le aggressioni. E come le preparano? Esattamente come stanno facendo con il Venezuela, demolendo le figure di quelli che non vogliono sottostare ai diktat delle grandi multinazionali, ai diktat dei poteri forti e del grande gendarme del mondo che è il Nord America. Demoliscono queste figure e di la maggioranza delle persone, pensiamo all'Italia, paese ultraprovinciale, non sa neanche dove si trovi Caracas o il Venezuela, però se gli chiede chi è Maduro gli rispondono che è un dittatore, cioè, e non sanno neanche come si chiama il presidente della Spagna. Ci sono stati dei giornalisti indipendenti che hanno fatto proprio un'inchiesta su questo, faceva ridere se non fosse stato da piangere. Tante persone in Europa non sapevano come si chiamavano i presidenti del loro paese più vicino in Europa, però sapevano tutti chi era, dal punto di vista dei media, Maduro, e cioè un dittatore. E evidentemente tutti i dati, come recentemente ancora ne abbiamo avuto conferma, stanno facendo le grandi agenzie dell'umanitarismo, Amnesty International. Io l'ultimo articolo che ho scritto è vergognosamente parte in causa di questa azione di menzogna demonizzatrice per quel che riguarda prima di tutto il Venezuela, ma anche Cuba, come sempre, e Nicaragua, e per altri versi tutti quei paesi che si trovano in un'orbita antiimperialista, anche se per quel che riguarda i nostri ideali non sono consonanti, come invece può esserlo ed è il Venezuela, perché il Venezuela parla di un socialismo umanista che tra l'altro dovrebbe piacere moltissimo da queste parti, ibridato di cristianesimo, senza la dittatura del proletariato, chiaramente anticapitalista, però assolutamente aperto alle differenze. Cioè è veramente una spaventosa operazione di menzogna quella che fa in modo che i compagni, che le persone di sinistra, direi, di sinistra vera, anticapitalista, umanista, non riconoscono il governo bolivariano come qualcosa di molto vicino. Cioè io non dico che si potrebbe arrivare, perché non sono purtroppo più i tempi dell'internazionalismo vero, a una mobilitazione di massa così grande e continua come quella che ha portato i compagni in Vietnam ad averla vinta sulla guerra di aggressione dell'imperialismo all'epoca, ma almeno a mobilitazioni grandissime, diffusissime, come quelle che ci sono state nel 2003 contro l'aggressione all'Iraq, che certamente le persone, quei pacifisti che scendevano in piazza in tutte le parti del mondo, al punto da essere definite quelle manifestazioni la rappresentazione della seconda potenza mondiale, quei pacifisti non avevano sicuramente simpatie per Saddam Hussein, però ancora c'è stato un riflesso forte di dire non con le bombe imperialiste. Abbiamo visto quante conseguenze ha portato, le abbiamo viste fino a un certo punto, perché purtroppo la propria parte in commedia, come dicevo prima, nessuno sembra più intenzionato a vederla, la propria parte di responsabilità in quelle che sono le conseguenze dei guasti del capitalismo, però le abbiamo viste perché milioni di persone a cui vengono tolte non solo la possibilità di vita e la casa con le guerre imperialiste, ma anche proprio con la conseguenza di questo nefasto modello di sviluppo che toglie ai contadini poveri in Africa, in tutte le parti del mondo, la possibilità di avere un pezzo di terra, perché non solo il grande latifondo glielo toglie nei paesi soprattutto dell'America Latina e dell'Asia, ma le catastrofi, cioè c'è una percentuale gigantesca di rifugiati climatici. E perché? Perché noi abbiamo un paese capitalista come imperialista come il Nord America, che i cui cittadini consumano per migliaia. Perché? Perché effettivamente sì, questo è un modello di sviluppo destinato a distruggere l'umanità se non viene fermato. E quando da una parte del mondo, come quella che fa capo a Cuba e a Venezuela, vengono altri messaggi, soprattutto il messaggio che si può vincere, questo diventa occasione perché Venezuela sia definita una minaccia inusuale, straordinaria per la sicurezza degli Stati Uniti, come ha fatto il democratico Obama mettendo le sanzioni nel 2014, non perché abbia impiegato bombe nei confronti dei popoli, anche perché ha una storia che viene dal libertador Simón Bolívar, che ha dato l'indipendenza ai popoli, non l'ha sottomessa, ma perché appunto stanno pericolosamente dimostrando che, a differenza di quello che avviene dalle nostre parti, la crisi possono non pagarla sempre solo le stesse persone. Perché può esistere un sistema diverso da quello che invece fa in modo, le statistiche ce lo dicono ogni tanto, che 60 famiglie posseggano la ricchezza di tutto il mondo. È possibile, dice il Venezuela, è possibile, dice Cuba, ma il Venezuela dice è possibile anche senza fare una rivoluzione leninista. Questo è doppiamente pericoloso, perché vuol dire che con il livello di avanzamento delle forze produttive che c'è nei paesi capitalisti si potrebbe vivere, adesso per usare un esempio semplice, con un livello di benessere perlomeno equivalente a quello che aveva un impiegato di media categoria negli anni 70. Non sarebbe difficile, ma qui non si riesce a tassare le armi del mondo, non si riesce a diminuire i bilanci per le guerre imperialiste, non si riesce a diminuire anzi il bilancio per la sicurezza. Noi abbiamo nuovi sceriffi e nessuno si interroga di quali siano i grandi interessi che ci stanno dietro a questa corsa alle armi che negli Stati Uniti fa in modo che se ci siano stragi quasi quotidiane, ma non si possa toccare l'interesse del complesso militare industriale e della grande industria della sicurezza e soprattutto della sicurezza privata, che ha uno dei terminali più importanti nello Stato coloniale di Israele e che ha interessi giganteschi in tutto il sud globale. Questo riguarda la ricerca, riguarda il fatto che i nostri giovani che studiano, una famiglia che fa sacrifici, è inutile che li faccia perché tanto avrà un disoccupato a vita o uno che ti starà in casa fino a 50 anni, se riesci a mantenerlo, oppure se devi andare fuori e fare il cameriere, eccetera. Certo, avrebbe un'altra possibilità, fare come abbiamo fatto noi dal 68 in poi e anche prima, cioè dire basta, ricominciare in qualche modo a guardarsi intorno, a vedere che è possibile ricominciare, e però è anche doveroso tener conto che ci sono dei costi da assumersi, perché a livello in cui è arrivato proprio quella soglia che ci stanno imponendo di nuovo di come dire, di infrangere quando vogliono la stessa legalità che pretendono di farci feticizzare a noi delle classi popolari, è ovvio che anche per tirare una pietra bisogna assumersene le conseguenze, anche per bruciare una bandiera, ma anche per andare a fare uno sciopero. Oggi ti devi assumere un livello di conseguenze totalmente sproporzionato. Cioè la manifestazione del 2001, che forse sarebbe il caso di ricordare ancora, a Genova, che certamente non aveva messo in causa nessun tipo di violenza tradizionale, ha prodotto l'uccisione di Carlo Giuliani. Voglio dire, lo Stato borghese sempre si mostra il suo vero volto quando si viene attaccato, e oggi Trump sta mostrando apertamente il suo vero volto, dicendo chiaramente che il socialismo in tutte le sue forme non deve passare, costi quello che costi. È molto importante, compagni, perché noi nel corso degli anni, i più vecchi lo ricorderanno, il piano Condor, tutti sapevamo che dietro il golpe c'era sempre la mano della CIA. Però le prove, tra virgolette, di tutto questo si avevano sempre 50 anni dopo, quando venivano desecretati i famosi documenti del Pentagono. Adesso no, adesso Trump lo sta dicendo direttamente, che bisogna spazzar via qualunque tipo di possibilità che il socialismo torni a essere una speranza, come lo è per le classi popolari a livello mondiale, anche per noi. E i veri bersagli sono i giovani, i veri bersagli in fondo stanno qui, stanno nelle nostre sponde, perché è solo costruendo una vera alternativa anticapitalista, ricostruendo degli ideali, delle prospettive nel centro del sistema imperialista, che si possono aiutare quei popoli, e si può anche acquisire il diritto di fare delle critiche, perché non è che, almeno per quel che riguarda me, l'internazionalismo non è fare il tifo per qualsivoglia paese, ma cercare di fare le cose, di cambiare le cose nel proprio paese, e solo sulla base di quello che si fa e si realizza, o anche del bilancio di quello che lo siamo riusciti a fare, che è già un'operazione di onestà vera, si può avere il diritto di parola per dire a chi sta facendo il suo mestiere, a chi sta facendo la sua rivoluzione, dove invece sulla base di un'esperienza acquisita da queste parti si potrebbe far meglio o non si potrebbe far meglio. Cioè io ricordo ancora come la parola grillo parlante fosse il peggior insulto che si fosse fare a una persona negli anni in cui contava la conseguenza tra dire e fare. Oggi noi siamo circondati da grilli parlanti, per non parlare quelli che poi ce l'hanno anche di nome, ma insomma, no, però è spaventoso. Cioè soprattutto a sinistra, dalle famose parti di D'Alema, gli audaci di Capaldio, eccetera eccetera, non so se qualcuno se lo può ricordare, c'è stata una totale discrepanza tra quello che uno ha detto e quello che uno ha fatto. Invece un altro esempio che viene dal Venezuela, ma persino bisognerebbe conoscere la storia, io per quello ne parlo sempre anche nei libri, per quello che può essere il mio modesto contributo, per capire quanta importanza ha avuto nel 1992 in Venezuela che questa rivolta civico-popolare, che è stata capeggiata dall'allora tenente colonnello Hugo Chavez Frias, abbia significato per le classi popolari, perché era un periodo in cui c'era il signor Fukuyama che faceva credere che la storia fosse finita, era in pieno dilagare del neoliberismo, dalle nostre parti non ne parliamo, e si stava cambiando praticamente il mondo, e la crisi delle rappresentanze istituzionali classiche borghesi era conclamata anche in America Latina, il tradimento e il revisionismo di certi partiti, eccetera, eccetera, eccetera. E che quando quella rivolta è fallita, Chavez fosse andato in televisione per pronunciare la sua famosa promessa, che è stata una grande assunzione di responsabilità, cioè compagni mi dispiace, la rivoluzione è fallita per ora, ha avuto un grande impatto, perché in un sistema in cui nessuno sembrava più voler essere responsabile del disastro che stava portando avanti, che qualcuno si fosse assunto le proprie responsabilità fino a pagare con il carcere questo tentativo, e non era un colpo di Stato come hanno fatto crederci da queste parti, ma un tentativo insurrezionale che aveva avuto, ne aveva avuti, aveva avuto dei precedenti importanti in Venezuela e sarebbe continuato poi fino alla vittoria di Chavez nel 1998. Questo impatto è stato molto forte. Dalle nostre parti questo non è ancora successo. Io sono leninista e quindi sono marxista e abborgo qualunque tipo di culto della personalità, ma è proprio perché ci sono dei processi in campo che non si può guardare alle cose come al risultante di uomini soli o donne sole al comando, eccetera, eccetera. Non è così, perché così come dice il titolo del libro precedente, Talpe a Caracas, le talpe nel senso di Marx ricominciano comunque sempre a scavare e a trovare una loro strada. La trovano con i mezzi che possono e effettivamente in Venezuela hanno il popolo organizzato a trovarsi la loro strada, l'ha trovata con le elezioni, ma questo non ha significato che il fatto di aver proceduto ad andare al governo con le elezioni abbia significato che non si dovesse assumere un livello di resistenza forse ancora superiore, perché non avendo il totale controllo dei mezzi di produzione come Cuba, che un paese in cui i Gusanos, cioè gli anticastristi, se ne sono andati a complottare a Miami, quelli cinici, gli squallidi, cioè come li chiamano loro, i fascisti venezuelani ce l'hanno a complottare costantemente, quindi la guerra economica, quindi il sabotaggio, quindi gli omicidi mirati all'interno, quindi soprattutto un apparato di propaganda gigantesco, perché in Venezuela oltre l'80% dei mezzi di comunicazione sono ancora nelle mani di privati, e non solo la proprietà privata non è stata abolita, ma viene sovvenzionata dallo Stato, e questo ha prodotto nel corso degli anni un'emorragia gigantesca di soldi portati all'estero da questi signori, che anziché investire nel loro paese come avrebbero dovuto fare, se ne sono andati a speculare nella finanza internazionale, come sempre è stata loro consuetudine ben prima dell'arrivo del socialismo bolivariano, e hanno alimentato questa gigantesca macchina del fango che ci fa credere che le cose stanno esattamente all'opposto di quello che invece si vede, e noi siamo turlupinati da queste parti al punto tale da non aver neanche protestato, perché il Parlamento europeo, pensate, ha attribuito il premio Sakharov, che sarà pure per i comunisti una porcheria, ma è stato dato anche, sì, insomma, meglio parlare che altro, è stato dato anche a persone come Mandela, eccetera, eccetera, a un manipolo di golpisti veri, fra i quali spicca la figura di un giovane che si chiama Lorenza Lec e che è un nazista dichiarato. Il premio Sakharov per la libertà di opinione, un nazista dichiarato, non perché lo definisco io tale, ma perché lui si definisce così, trovate le sue foto sotto le svastiche e i ritratti di Hitler quando ha partecipato a dei raduni in Colombia, paese che si sa raccoglie il peggio del peggio. Questo qui è stato non solo liberato a furor di Europa, perché era stato incarcerato avendo progettato, con tanto di registrazioni che qui porterebbero all'ergastolo, aveva progettato di bruciare vivi dei giovani delle discoteche, perché in queste discoteche si sospettava che ci fossero i figli dei chavisti. Non solo è stato liberato, portato in Europa, esibito in un abbraccio fraterno con addirittura Michel Bachelet, ex presidente del Cile, che di volte se ne dovrebbe capire, visto che Pinochet gli ha ammazzato il padre, l'ha torturata, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate a che livello di capovolgimento e di intorpidimento, come minimo, dei cervelli siamo arrivati. Noi tutti i giorni ci sorbiamo sui grandi giornali articoli in cui si vede questo autoproclamato, c'è un tizio che un giorno non lo conosce nessuno se non la CIA da cui è andato a scuola, nelle agenzie che hanno prodotto già i tempi della ex Jugoslavia, nello specifico questa agenzia Otpor, no, che attiva in tutte le cosiddette primavere, eccetera, eccetera, ebbene si sveglia un giorno e dice: io sono Presidente della Repubblica. Non solo nessuno lo mette in galera, ma neanche in manicomio. Si aggira, viene conosciuto da governi imperialisti di mezzo mondo, e questo signore va in giro dicendo che in Venezuela c'è una dittatura e non c'è la libertà di opinione. E noi lo vediamo ritratto su questi giornali ogni giorno, circondato da serie di microfoni, mentre grida che in Venezuela non c'è la libertà di opinione. Io dico, questo è un insulto all'intelligenza media dei cittadini. Qualcuno protesta? No, ci credono. Non solo, lo dico e lo ripeterò sempre, perché questo è uno dei tanti esempi illuminanti di come non siamo più neanche capaci di vedere quello che ci viene mostrato sotto i nostri occhi. Recentemente, quando questo signor Guaidó, che non solo si crede il Presidente della Repubblica, ma pensa di poter essere al di sopra delle leggi, quindi erogare decreti, ha erogato una presunta amnistia da dare ai militari venezuelani, che sono un esercito del popolo e non di guerriglia dell'America Latina. Poi magari apriremo una parentesi su questo, perché non si sanno queste cose qua, e quindi abbiamo visto sui giornali articoli in cui i giornalisti accompagnavano questi gruppi di opposizione a portare l'amnistia ai militari. Ora, una di queste descrizioni era che il gruppo stava andando alla casona. Sapete cos'è la casona? La casa del Presidente della Repubblica. Poi lui non ci sta perché vive in altri posti, però è un forte militare. Immaginate, noi che abbiamo oltre 100 basi militari in Italia, che cosa può voler dire che qualcuno si avvicini a una di queste postazioni. Dire che se il carabiniere ti spara, ti fanno una medaglia al carabiniere, non è che dicono che poverino ti è successo qualcosa, no. No, questi vanno, suonano alla casona, esce un militare e, come la consegna, educatamente prende questo foglio, tira fuori l'accendino, glielo brucia e se ne ritorna indietro tranquillamente. Non contenti, sempre questo descrive il giornalista, questi bussano di nuovo e gli parlano dello spioncino, cercando di convincere il militare che il signor Guaidó è il legittimo Presidente della Repubblica, no? E stessa scena, il gruppo se ne va, operazione mediatica evidentemente fallita, ma la descrizione dell'articolista è tutta sul fatto che in Venezuela vige una dittatura militare che reprime e spara sui manifestanti. Nessuno naturalmente ci dice che i militari nelle manifestazioni non possono portare armi, che la polizia ha ordine sempre di non sparare e che le poche scene che i giornalisti indipendenti o i compagni hanno mandato qua hanno mostrato nel corso di questi anni che hanno una realtà totalmente diversa. Chi parla, cioè, ha visto in tutti questi anni personalmente le violenze delle destre, le ha viste proprio da vicino, ero a pochi metri quando hanno ammazzato un compagno un militare, e abbiamo visto bruciare vive delle persone, e abbiamo anche visto che la targa del principale accusato per questo fatto orribile è degli italiani. Cioè, il ruolo degli italiani che hanno fatto fortuna in Venezuela, che sono veramente dei capitalisti importanti nell'edilizia, in tantissimi settori, è impressionante. Sono persone che qua finanziano certi pezzi di quella sinistra che appunto poi li porta a passeggiare con i soldi dei contribuenti nel Parlamento italiano, e non dice minimamente di che natura siano quelle proteste. Cioè, quelle stesse persone che qui, se fischi a un fascista, chiamano la polizia e dicono che sei un terrorista, devi andare in galera, difendono i terroristi veri. Cioè, le persone, la gente che brucia i ragazzi per le strade solo perché hanno una maglietta rossa e sono poveri. Cioè, questo non significa, perché sarebbe un altro errore, farne una questione di buoni e cattivi, ma tornare a esaminare la storia come storia di lotta di classe. in cui effettivamente ci sono delle istituzioni legittime, elette, se qualcuno trasgredisce, come minimo va incontro, io mi metto nella logica, diciamo così, totalmente legalitaria. Così come certe persone sono capaci di giustificare la reazione di Trump o la reazione degli spagnoli, del governo spagnolo, del governo francese, che è arrivato a oltre 3.000 arresti nei confronti dei gilets jaunes, invece da quelle parti no, perché effettivamente c'è un atteggiamento di fondo neocolonialista che pensa che le istituzioni di quei paesi non sono delle istituzioni, cioè istituzioni confermate da 25 elezioni frega niente. C'è una grande opera di mistificazione che noi abbiamo visto quando c'è stata la proposta dell'Assemblea Nazionale Costituente, che ha riportato la pace nel paese dopo mesi di aggressione, in cui le ragazze e i ragazzi che stavano per strada senza poter reagire in un paese caraibico in cui il sole picchia forte, e quelli li lanciavano non solo proiettili veri, ma addirittura si sono inventate le bombe di escrementi, e immaginate che cosa voglia dire in un paese con quel sole, per i bambini, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, dopo mesi di queste violenze, che qui venivano fatte passare per manifestazioni pacifiche contro la dittatura, finalmente la proposta dell'Assemblea Nazionale Costituente, in cui oltre 8 milioni di persone, erano 8 milioni e mezzo, comprese la gente di opposizione che non ne poteva più di essere taglieggiata da questi gruppi estremisti nei loro stessi quartieri, hanno votato per l'Assemblea Nazionale Costituente, e qui c'è stata presentata da tutti i giornali, come un'operazione del dittatore Maduro che voleva distruggere il Parlamento. Ora, se soltanto qualcuno avesse spiegato che quella non è una repubblica parlamentare basata sui tre poteri canonici, come da noi, legislativo, esecutivo e giudiziario, ma che lì di poteri ce ne sono 5 a livello istituzionale, che oltre ai tre canonici c'è anche il potere elettorale e il potere morale, e che questi 5 vengono retti dal Tribunale Supremo di Giustizia, la Corte Suprema, che è l'organo deputato a fare in modo che nessuno di questi 5 prevarichi gli altri, perché sennò è destabilizzazione della Repubblica. Se ci avessero spiegato questo, avrebbero dovuto dire che nel 2015, quando le destre hanno vinto in Parlamento le legislative del 2015 con un'ampia maggioranza, e che avrebbero potuto mettere in azione una normale dialettica democratica anche accesa come si fa in questi paesi, hanno avuto come unico obiettivo di cancellare la Costituzione, non di avere una dialettica democratica, e hanno cominciato a proporre una serie di leggi per privatizzare i servizi pubblici, per abolire le pensioni, tutto ricettario del neoliberismo. Naturalmente quelle leggi erano anticostituzionali e quindi sono state bocciate dalla Corte Suprema sollecitata dal Presidente, come avviene in qualunque ordinamento costituzionale che abbia le sue leggi. Loro avevano come obiettivo quello appunto di cancellare la Costituzione bolivariana, che vieta l'imposizione di basi militari, di qualunque base militare, di qualunque paese in Venezuela, vieta gli OGM, la Monsanto e tutte queste robe qua, vieta di privatizzare le case popolari che sono arrivate già a essere state distribuite gratuitamente per oltre 2.600.000 famiglie, e vieta di cancellare sia le leggi dell'ambiente, che sono molto feroci, visto che il paese, che in Venezuela non solo deve proteggersi e deve proteggere le risorse perché è un paese petrolifero, ma ha delle straordinarie risorse naturali che non può distruggere, le peste, eccetera, eccetera. E vieta che le leggi del lavoro, che sono delle leggi veramente straordinariamente avanzate, che fanno in modo che quando i capitalisti cercano di scappare con la cassa, il presidente vada a occupare le fabbriche insieme agli operai e gli consegni. Noi abbiamo molta esperienza che ci siamo dimenticati a questo riguardo, però consegni nelle mani del controllo operaio la gestione delle fabbriche. Volevano le destre azzerare tutto questo. Se ce l'avessero raccontato così, uno avrebbe potuto dire sì, ma a me il socialismo non piace, vabbè, legittimo pensarlo, oppure io penso che invece vada meglio tornare alla Quarta Repubblica, va bene, legittimo pensarlo, ma non dirmi che questo tavolo è una mucca, perché se no quando io vado per cercare di ho fame e di trarre del latte dal tavolo, evidentemente voi di fame, ma noi non siamo ancora arrivati al punto da sbattere la testa contro il tavolo, ci continuano a far credere che questo tavolo sia una mucca. E questo è questo la cosa peggiore, perché il capitalismo, già se lo diceva Marx, ovviamente si basa su una menzogna che parte dall'obnubilare la asimmetria feroce che esiste nello sfruttamento tra capitale e lavoro e via discorrendo, e parte dall'obnubilare la natura vorace dell'imperialismo e la natura vorace del capitalista, che se gli dai un dito, già diceva Marx all'epoca, si prende il braccio. Se gli dai il braccio, se calpesta tutti i famosi diritti umani. Invece è proprio attraverso la retorica dei diritti umani, prima facevo accenno a queste grandi agenzie dell'umanitarismo, che ci viene propinato un altro tipo di opinione pubblica, qualcosa che ci impedisca di vedere. Perché, come dicevano ai tempi dell'Argentina, ai tempi della dittatura argentina, quando scomparivano i compagni e i dittatori facevano credere che erano avevano cercato di ammazzare Lizio Caio Sempronio e scomparivano, le persone non le vedevano più, dicevano ma qualcosa l'ha fatto, per qualcosa sarà. E immaginate adesso che abbiamo un apparato totale che è dalla parte dell'imperialismo, perché l'informazione, essendo nelle mani di grandi monopoli, è diventata una merce che risponde naturalmente ai loro padroni. Non esiste il pluralismo dell'informazione, è proprio scomparso, esiste una fonte unica, una gigantesca velina di polizia, che ho verificato stando tanti anni nell'informazione, appunto, che parte da Miami, si finisce a Madrid, dove viene perfezionata da queste grandi agenzie eccetera eccetera, e poi si diffonde in Europa, dove naturalmente si affina, perché purtroppo quelli che avrebbero quelli che un tempo portavano avanti la verità delle classi popolari, gli interessi delle classi popolari, sono passati dall'altra parte, pensano che siamo scemi, pensano che al contrario l'unica cosa che si deve fare è difendere questo, le nostre catene, lucidarle per bene e possibilmente sbattere in testa all'ultimo della catena, perché non si veda chi è quello che invece le stringe e ci sta soffocando. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Volevo chiedere, ha fatto un accenno a Amnesty International, volevo sapere qual è l'atteggiamento di Amnesty International. Guarda, io ho diffuso proprio ieri, l'altro ieri non mi ricordo, un commento sull'ultimo rapporto di Amnesty International che potete trovare. Io mi riferivo alla versione in spagnolo e tutto il campo di ricerca nell'ambito latinoamericano è affidato a una tal Erika Ross qualcosa, che è una persona dichiaratamente di destra, molto una fautrice accanita degli argomenti dell'opposizione, perché una grande associazione dell'umanitario come è quella, che dovrebbe essere tra virgolette imparziale, dovrebbe come minimo fornire varie fonti, dovrebbe andare a vedere, invece purtroppo tutte le loro fonti sono di una, da una parte sola, e quindi c'è un prontuario tremendo di accuse a Maduro, sicuramente al governo bolivariano, che suffragano questo progetto criminale, secondo me, di portare, che riguarda il Venezuela, il Nicaragua e Cuba, di deferire il Díaz-Canel, il presidente di Cuba, e Raúl Castro, e la dirigenza bolivariana e anche quella del Nicaragua alla Corte Penale, a Cuba addirittura per schiavitù dei medici cubani, cioè si sono inventati, pensate, cioè, si sono inventati che il governo cubano tiene i medici che manda in giro nel mondo, non certo a fare i piani di aggiustamento strutturale da imporre alle popolazioni, ma ad aiutare laddove nessuno vuole andare, impone situazioni di schiavitù ai medici cubani e quindi devono essere deferiti alla Corte Penale Internazionale. Proprio in questi giorni sono stati scelti i giudici che dovranno processare Maduro alla Corte Penale Internazionale e c'è una proposta per quel che riguarda il Nicaragua, verrà buttato fuori dall'organizzazione degli Stati Americani, che giustamente a suo tempo Fidel Castro definì il Ministero delle Colonie, da cui è uscito anche il Venezuela adesso, e si sta, diciamo, si provando ad attaccare laddove il campo dei paesi progressisti è più debole. Hanno provato a coniarsi in Nicaragua e adesso vogliono continuare con questa operazione non solo di discredito ma di soffocamento internazionale del processo bolivariano, perché il loro obiettivo è naturalmente, come sempre, Cuba, perché si sa perfettamente che l'interscambio solidale che in tutti questi anni, dopo il periodo speciale, ha permesso a Cuba di poter tornare a respirare, è stato perché il socialismo bolivariano ha vinto, è stato perché ci sono stati anni dopo la vittoria di Chavez, in cui ci sono state altre vittorie di presidenti progressisti nell'area latinoamericana, e perché purtroppo adesso questo campo di forza si è notevolmente indebolito, perché il Brasile è andato a destra, perché l'Argentina è andata a destra, la notizia di oggi che Cristina Kirchner si è ricandidata, e perché purtroppo c'è stato anche il tradimento di Lenin Moreno in Ecuador, che sta facendo tavola rasa di tutte le conquiste che erano state fatte dalla rivoluzione ciudadana, non da Correa, dalla rivoluzione ciudadana, così come, e perché ci sono le elezioni, a breve ci saranno le elezioni in Bolivia, e si sta provando a cancellare anche l'esperienza del socialismo andino. Quindi sì, questo è, quindi adesso saranno le altre, la temata, diciamo che l'imperialismo sta approfittando di questa fase. Oggi tra l'altro Israele ha bombardato la Siria direttamente, ieri anzi, cioè l'imperialismo sta provando a far man bassa, perché mai come in questo momento ha avuto condizioni favorevoli. Trump deve andare, si è ricandidato per le prossime elezioni, si sa perfettamente che il complesso militare industriale sempre cerca di avere delle vittorie dal punto di vista dell'aggressione militare quando ci sono situazioni critiche per chi li rappresenta. È successo con la Francia in Libia, è successo tante altre volte, e perché è nella natura del capitalismo, nella natura imperialista del capitalismo, di risolvere la propria crisi sistemica strutturale con le guerre, sempre. Quindi noi ci dovremmo aspettare, e chi usa l'imparzialità, tra virgolette, che imparzialità non è e non può essere, perché è solo esaminando e guardando in faccia il conflitto come scontro di interessi tra le classi che si può valutare morti o non morti, quando ci sono o non ci sono, eccetera eccetera, le ragioni e i torti. Non è vero che non ci sono ragioni, non ci sono torti, o si possono mettere sullo stesso piano le ragioni dei nazisti con quelli di chi vi si è opposto, no? Questa è la logica invece che hanno queste, e le grandi agenzie dell'umanitarismo, lo spiega molto bene Raul Capote, che è stato invitato dall'Associazione Italia Cuba in questi giorni a fare, sta facendo un giro nel suo libro, che è uno studio sull'influenza nella guerra culturale, nella guerra di nuovo tipo, che è cominciata da quando alla formazione della CIA Nord America si è servito dei nazisti sconfitti dall'Armata Rossa, e è continuato attraverso la formazione per interposte catene di, che neanche si riesce a vedere, di queste agenzie che usano, attraverso, hanno fior di quattrini, convegni, giornalisti, eccetera, per riuscire a far cambiare l'opinione pubblica rispetto al socialismo. Questo è stato valido nel secolo scorso, ma è ancora più valido adesso. Lo stesso ex presidente Lula del Brasile, che non era un estremista, ha raccontato un libro fatto con dei giornalisti di interviste pochi giorni prima che lo arrestassero, proprio di questo tema, dell'Istituto Millennium che c'è, cioè l'influenza di queste ONG che negli ultimi 20 anni hanno preso un peso gigantesco e che dalle nostre parti hanno portato avanti la teoria che il comunismo sia una riduzione del danno, cioè che non si debba assumere fino in fondo il peso del conflitto, governarlo a seconda di con i metodi che il contesto storico consente o non consente, eccetera eccetera, ma che si debba accettare di essere compatibili con questo sistema. Neanche si riesce più a parlare nei congressi di anticapitalismo, ci si spinge al massimo a dire antiliberismo, come se esistesse la possibilità di una globalizzazione capitalista compatibile con gli interessi delle classi popolari e non compatibile invece con gli interessi di quelle 60 famiglie che stanno possedendo la ricchezza del mondo. Cioè ci continuano a turlupinare e attraverso il furto del linguaggio si sta portando avanti un gigantesco furto di futuro proprio per le giovani generazioni. Altra domanda? Intanto la ringrazio per questa interessante analisi, no? Che almeno è molto diversa da quella che ci propinano tutti i giorni i media, e quindi è condivisibile. Però volevo chiedere una cosa. Il Maduro, secondo lei, non ha fatto degli errori da un punto di vista economico? Cioè, il fatto che ci sia una crisi economica, meno, è dovuto solo alle sanzioni americane o c'è anche, ci ha messo del suo, insomma, Maduro? Questa è una domanda cruciale, io penso, però, se mi permette, andrebbe posta in un altro modo, cioè, dall'artista. Cuba ha fatto una rivoluzione. Qualunque tipo di errori forse siano venuti dopo sono da evitare tutti in qualche modo, ovviamente la pressione imperialista, ma questo lo sappiamo perché l'imperialismo fa il suo mestiere, ma alla completa gestione di chi aveva in mano le redini dello Stato. Infatti i dirigenti cubani sempre hanno ammesso, quando è stato fatto il passo più lungo della gamba, quando sono tornati indietro, diciamo, c'è sempre stato un bilancio da parte del Partito Comunista Cubano sulle scelte, così come era normale fare da parte dei partiti che hanno avuto occasione di dirigere le rivoluzioni nel secolo scorso, la Cina, eccetera, eccetera, quando c'era l'Unione Sovietica, insomma. Poi ovviamente si facevano con degli strumenti che non sono quelli strillati dei grandi media egemonici oggi, si facevano nelle sedi opportune, ma perché c'erano sedi opportune, cioè dalle sedi dei partiti si discuteva di questi temi, non è che adesso si discuteva di si deve ammaldicare la poltrona del giorno tale o e si deve dare addosso a quello che sta vicino a lui, insomma, erano problemi di prospettiva ben più alta. Ecco, per il Venezuela non è così, perché loro non hanno fatto una rivoluzione, e questo è fondamentale, cioè è il paese dell'America Latina che in questi governi progressisti dopo Cuba ha più rimesso in discussione i rapporti di proprietà, indubbiamente, perché la Costituzione e le leggi che sono venute dopo prevedono un depotenziamento dall'interno del capitalismo, infatti non si capisce perché qua non gli piace questa cosa, che invece è un depotenziamento dall'interno, favorendo sempre di più la proprietà sociale, che è la proprietà diretta o indiretta, statale, delle comunas, dell'autogoverno, eccetera, ma senza avere espropriato la proprietà privata, se non i grandi monopoli sì, che devono pagare le tasse, possono, le grandi multinazionali vanno a lavorare in Venezuela, fanno anche fior di quattrini, ma non si possono portare via il malloppo, come facevano una volta, devono pagare le tasse minime, però si pagano poche tasse in Venezuela, devono però rispettare le leggi del lavoro e dell'ambiente. questo provoca, è uno strano esperimento che necessariamente non è, cioè rende complicati anche i famosi piani quinquennali che faceva l'Unione Sovietica, perché ci sono tanti fattori in campo. Quando tu hai, tu fai un piano e c'è, ci sono grandi forze all'interno tuo stesso, comprese con la corruzione, perché dove circola tanto denaro, come si sa, noi ne sappiamo qualcosa come italiani, no? E che si dedica a smontartelo dall'interno, usando tutti i mezzi, è chiaro che i processi sono ritardati e si complicano anche i dati del problema, perché fior di economisti molto in gamba, ce n'è una che ha avuto anche dei libri tradotti qui, che si chiama Pasqualina Curcio, che hanno analizzato i problemi economici, hanno dimostrato concretamente che i fattori dell'economia classica, anche non parliamo dell'economia socialista, ma i fattori che determinano dal punto di vista capitalista l'economia classica, sono completamente pervertiti in Venezuela, da fattori come per esempio il cambio di denaro parallelo, il traffico di alimenti sussidiati, di benzina, cioè parliamo di un paese in cui fare il pieno di un succo costa meno di una bottiglia d'acqua. Immaginate che cosa vuol dire per una frontiera di 2500 km come quella che c'è tra il Venezuela e la Colombia, che una persona si fa tre volte al giorno avanti e indietro al confine con il suo pieno di SUV e guadagna, dove? Perché dall'altra parte la benzina costa come da noi, più o meno, insomma. È quello che bisogna c'ha di lavorare. Però quello è una gigantesca rete, ovviamente anche di convivenze, di soluzioni, che non danno da oggi, perché i paesi dell'America Latina, come tutti i paesi del Sud, hanno questo genere di problemi. Questi fattori non ci sono in altri paesi, cioè per esempio la guerra economica, uno dice che cos'è la guerra economica, no? E oltre a questi aspetti che ho appena enunciato, ne prevede un altro. In Venezuela c'è il bolivar, cioè la moneta nazionale non è il dollaro, è il bolivar, però è sempre stato così, cioè, anche prima di Chavez. Però si sa che per fare affari a livello internazionale occorre il dollaro, finora il dollaro è stata la moneta dominante. Per cui cosa fa il governo? Per favorire la produzione interna, perché in 20 anni il Venezuela ha fatto molti progressi, ma purtroppo, non essendo un paese arretrato del sud, non è ancora riuscito a conseguire l'autonomia produttiva che era stata distrutta in oltre 50 anni e passa, anzi dal 1910 quando è stato scoperto il petrolio in Venezuela, quindi ha cercato attraverso i capitalisti interni di favorire la produzione, e come? Dandogli a questi capitalisti imprenditori i dollari a prezzo agevolato, in modo che potessero andare sul mercato, comprare le cose e reinvestire nel paese, se non che questi non investivano nel paese perché non gli conveniva. Cioè, immaginate che se il dollaro sul mercato parallelo ti vale una cifra spropositata, inimmaginabile, chiunque può verificare in questi siti che ti danno addirittura i parametri, come Dollar Today e altri, ce ne sono, soprattutto Dollar Today, che interessi avevano quelli? Preferivano speculare sul mercato della finanza e non certo le investire nel paese, hanno gonfiato fatture, hanno fatto di tutto, che sono quantità di denaro gigantesche. Quindi questo è il fattore, diciamo, di contesto principale. Chiunque fosse stato a governare in Venezuela con quel sistema economico, con quel tentativo, con questo laboratorio che vuole comunque continuare a portare avanti un socialismo umanista e non cacciare i borghesi, espropriare tutto, eccetera, eccetera, ma scommette sull'egemonia. Venezuela è un paese molto gramsciano, Gramsci molto tradotto, molto frequentato, eccetera, e scommette di convincere attraverso la cultura, di costruire quell'uomo nuovo e donna nuova che Che Guevara ha tante volte enunciato nei suoi scritti. Solo Che Guevara l'ha fatto, lo enunciava in un paese dove il potere c'era davvero, cioè il Venezuela lo sta facendo in una condizione tanto ibrida che è complicata, perché ci sono dei fattori nella finanza internazionale. Non parliamo di un paesucolo che non ha niente, parliamo del primo paese che con le riserve più importanti al mondo, che quindi sta che ha le raffinerie in Nord America, non a caso la prima cosa che gli hanno fatto è bloccare le raffinerie, e che, attenzione, questo è il dato importante, perché giustamente tu stai dicendo Maduro si è sbagliato, perché quando c'era Chavez, cioè fino a un certo punto, il Venezuela stava andando a passi da giganti, aveva nella metà del tempo previsto raggiunto tutti i famosi obiettivi del millennio, e ancora oggi, dopo essere stato un paese totalmente analfabeta, il quinto paese al mondo per matricole universitarie, cioè quello che abbiamo qua noi, no? Il numero chiuso che impedisce ai medici, ai giovani di andare, eccetera, eccetera, le università private non ci sono più da tanto tempo, grazie appunto anche alla solidarietà di Cuba, si è sconfitto l'analfabetismo subito, cioè la FAO, che non è certo un'organizzazione socialista, ha dedicato il premio, un piano, un progetto di lotta alla fame a Hugo Chavez, perché stava andando tanto in fretta ed era un pericolo reale da quel punto di vista, quindi hanno dovuto mettere in campo, approfittando della morte di Chavez e pensando che quindi il gruppo dirigente si fosse indebolito, che il popolo non lo sostenesse più, eccetera, hanno messo in campo una serie di attacchi che sono da studiare, perché sono da manuali. Cioè, attraverso il Venezuela si stanno ridefinendo tutte le questioni che poi riguarderanno anche noi, se, come la Grecia, avremo l'occasione di cambiare davvero le cose, perché si capisce fino a che punto, appunto, perché ti devi assumere il peso della lotta di classe, cosa significa oggi. Cioè, noi ci hanno condannato agli ergastoli, ci hanno torturato, abbiamo oltre 5.000 prigionieri politici e non se ne deve parlare, eccetera. Quella generazione l'hanno sconfitta così, ma oggi un ragazzo lo mettono a tacere con le denunce o se gli danno le multe, e dagli 20.000 euro di multe al figlio di un operaio che sta, o le firme, che non ti puoi vedere uno con l'altro, già così da noi, no? Perché sono intelligenti, non è che la borghesia, quando vince, la prima cosa che fa ti distrugge la memoria storica, però loro ce l'hanno, loro riprendono sempre a reprimerti dal punto più alto in cui hanno sconfitto il movimento operaio e la classe popolare del periodo precedente. Carlo Giuliani te lo ammazzano per quello, perché loro c'era un'arma, o che quel movimento fosse andato a spaccare chissà che, andavano a mani nude con tutto il loro, le loro simbologie, che dal mio punto di vista erano molto carenti, però che non erano quelle del secolo scorso, però chi gli poteva dire niente, quel movimento, oppure ti ammazzano Carlo Giuliani, oppure ti torturano col Saneto, perché ce l'hanno la memoria di quella roba lì. E quindi, cioè, la sperimentazione del Venezuela è estremamente moderna, estremamente importante, anche se noi non siamo un paese petrolifero, non abbiamo quelle simbologie, quelle modalità, quelle forme organizzative, no? Anche quel mix che hanno nei Caraibi di Cristo, Chavez, sono quelle cose che, pur con tutto rispetto, a cui noi però non possiamo attingere, ma la stessa storia delle forze armate è molto interessante. Tra l'altro, tra pochissimi giorni, a giugno, esce un libro piccolino che io ho introdotto, sono documenti inediti che non sono mai stati pubblicati, solo per la prima volta recentemente in Venezuela, che raccontano i prodromi del chavismo. Cioè, si dimostra concretamente perché il chavismo, a differenza di quanto ci hanno raccontato dalle nostre parti, è stato profondamente innervato nella storia del Partito Comunista Venezuelano, nella storia dei movimenti di estrema sinistra di quell'epoca. Cioè, vi faccio un brevissimo excursus. Già nel 1957 il Partito Comunista Venezuelano, in uno dei suoi congressi, aveva, siccome all'epoca si pensava di fare tutti come la Russia, cioè la rivoluzione, aveva messo fra i suoi obiettivi che si dovessero conquistare le forze armate al marxismo per avere le armi per fare la rivoluzione, cioè delle persone convinte, no? E nel 1958, quando è stato cacciato il dittatore Marco Pérez Jiménez, la resistenza, loro hanno avuto una specie di CLN come da noi, no? La resistenza armata a quella dittatura l'ha diretta il Partito Comunista Venezuelano e molti ufficiali progressisti, perché la storia dei militari in Venezuela è una storia di origini popolari, a differenza di tutte le altre parti dell'America Latina, dove l'oligarchia sempre doveva mettere un generale nelle forze armate, un cardinale nella chiesa e uno negli altri vertici della politica. Lì no, lì si andava nelle forze armate perché lì un po' si poteva studiare, era meno caro, per esempio, non c'erano le scuole privatizzate. Chavez si è formato così, era un figlio di poveri che voleva tra l'altro fare sport ad alto livello, non poteva farlo perché costava caro, e è andato nelle forze armate. Però questa attitudine di voler delle forze armate marxiste, diciamo, delle compagne, è continuata per tutto il periodo, perché dopo aver cacciato il dittatore Marco Perez Jiménez, anche in Venezuela voleva fare come Russia. Se non che quando nel 1959 la rivoluzione cubana ha vinto e in Venezuela si mandavano i soldi a Fidel Castro, alla resistenza cubana, eccetera, eccetera, l'imperialismo nordamericano, in quello che era un paese già petrolifero, ha detto: qua le cose vanno aggiustate. Quindi ha cooptato la parte moderata di quel CLN, diciamo così, e gli hanno fatto firmare il famoso patto di Punto Fico, che ha stabilito un'alternanza tra centrodestra e centrosinistra che è durata fino alla vittoria di Chavez, con l'esclusione dei comunisti, sia dei comunisti che di quegli ufficiali progressisti che avevano partecipato alla resistenza. Da lì il Partito Comunista è passato alla lotta armata, cioè il Partito Comunista per un periodo ha preso le armi non contro una dittatura, ma contro una democrazia borghese molto lodata da Washington e anche dall'Europa. E poi ci sono state varie scissioni, però a quella lotta armata hanno partecipato molti ufficiali progressisti e soldati, si contano tanti scomparsi in quel periodo, perché quella democrazia così lodata è stata la prima a buttare gli oppositori dagli aerei, a permettere al signor Posada Carriles di torturare i compagni delle guerriglie nelle caserne segrete con il nome di commissario Basilio. E il Venezuela però non ha partecipato al Plan Condor, quella era una delle poche democrazie apparenti però camuffate, e che ha dovuto vedersela però con una cosa molto analoga a quella che è successa in Italia negli anni 70, una guerriglia che è durata tanto tempo e un'opposizione di classe che ha visto la partecipazione appunto di molti di questi ufficiali progressisti, che hanno appunto accompagnato poi la ribellione civico-militare di Chavez, che era stato uno di questi contattati dal fratello Adán Chavez, che adesso è ambasciatore a Cuba, che è uno dei dirigenti del processo bolivariano, il quale per ordine del suo partito, che era allora il PRD, una scissione appunto, che stava facendo la lotta armata, ha contattato suo fratello che sapeva essere un marxista. Chavez è nato così, non è appunto una cosa che si può spiegare come si sono spiegati i gorilla sudamericani, ma esattamente all'opposto. E questo processo di democratizzazione delle forze armate non solo continua ancora adesso, ma le forze armate sono esercito del popolo. Quello è l'unico paese in cui questo esperimento ha funzionato, perché abbiamo visto che invece nel Medio Oriente è fallito, cioè dai Gheddafi, ma ancora prima, no? In Egitto, eccetera, tutte quelle che erano state le speranze del nazionalismo di questi militari progressisti, è fallito proprio perché spesso si sono trasformati nei boia dei compagni, dei comunisti, cioè sono passati dalla parte dell'imperialismo. In Venezuela invece questo esperimento ha funzionato. Questa è un'altra delle felici anomalie che fa in modo che ogni tanto filtrino anche da queste parti delle foto dei vertici delle forze armate a pugno chiuso. Sono a dirigere le forze armate adesso il ministro della difesa, che è un marxista profondamente pacifista. Noi ci hanno fatto pacifista nel senso della pace con giustizia sociale, non della pace del sepolcro che ci vogliono propinare dalle nostre parti i figli pacifisti, e ci hanno fatto molti seminari quando siamo andati lì, spiegandoci appunto che capivano perfettamente che le forze armate, la polizia dalle nostre parti fossero forze repressive, ma che lì era l'esercito del popolo. Per esempio, sono soprattutto impiegati in attività di assistenza, con grande storno delle destre che dicono che non è possibile perché i militari devono fare i militari, no? Gli stessi articoli che compaiono anche dalle nostre parti, loro vanno a insegnare alle indigene dell'Amazzonia come si usano le lavatrici, cioè è un altro tipo di funzione. Ci sono le milizie popolari che sono come una specie di volontariato del popolo che a turno per mesi va e impara come si proteggono gli obiettivi civili, perché questi fascisti la prima cosa che hanno fatto, anche questo avremmo dovuto osservarlo per farci un'opinione vera, hanno distrutto le strutture pubbliche, gli asili nido, a volte con i bambini dentro, perché ci sono stati degli episodi, gli autobus, che insomma in un paese del sud globale che non ha sviluppato le tecnologie, distruggere degli autobus dove ci puoi salire su gratuitamente è veramente una cosa grave. Le cliniche veterinarie, ambulanti, perché lì per esempio un'attenzione gigantesca viene messa all'animalismo, insomma esiste una missione che si chiama Missione Vago, missione non è la missione cattolica, si chiamano missione, perché sono piani sociali del governo fatti per depotenziare appunto lo Stato borghese, la burocrazia dall'interno e arrivare a dare le risorse direttamente ai consigli comunali, alle comunas autogestite, al popolo organizzato, diciamo al potere popolare. Questa missione Vado è la missione dedicata agli animali. Quindi sì, ci sono delle cliniche veterinarie che girano per le strade per vaccinare gratuitamente, per curare gratuitamente gli animali, eccetera. E sono state distrutte, sono stati gli obiettivi di questi. E io polemizzavo, comunque dicevo, ai compagni anarchici che purtroppo sono caduti nell'errore, che non tutti gli incendi sono uguali, perché per esempio se in Brasile ci sono dei giovani ribelli che bruciano gli autobus perché non ci possono ricoverare, non ci possono salire sopra, perché fanno una protesta contro il cavo vita, il cavo trasporto. In Venezuela è esattamente l'opposto, quindi uno dovrebbe guardare che se i figli della borghesia, cioè la rivolta dei ricchi, quella lì non è esattamente il contrario, solo che se ci tolgono i parametri per vedere queste cose non... Voglio raccontare un episodio che veramente la dice lunga su che cos'è il Venezuela. Cioè io ho un'amica che è una documentarista molto conosciuta, che si chiama Lilian Blaser, che è venuta anche qua una volta in Italia, credo che l'avessero invitata anche come Italia-Cuba, e che vive in un posto dove dà lezioni di cinema, vive con due galline, un cane e un gatto. Quando ospita qualcuno dice per favore il cane da una parte e il gatto dall'altra, se non che una mattina, una notte, il compagno che stava ospitando si è dimenticato di chiudere la porta e il cane ha voluto mangiarsi le galline, è riuscito a spappolarne quasi completamente una, l'altra si è salvata. Io ricevo una telefonata di questa compagna che all'inizio non capivo perché era molto agitata e alla fine ho capito che insomma c'è stato un problema serio alla gallina. Lei aveva preso questa gallina e l'aveva portata d'urgenza a uno di questi posti, di questi ambulatori gratuiti, e dopo un paio d'ore mi arriva una foto di questa gallina così, però tutta bella cucita, con un'operazione di alta chirurgia, e se l'ha riportata a casa e poi ha anche cominciato a fare le uova. Dopodiché io ho voluto andare, quando dovevo andare a far togliere i punti alla gallina, sono andata con lei e ho visto uno di questi ambulatori di emergenza, cioè c'era di tutto, chiaramente gattini sciancati, persone disperate che arrivavano a portare gli animali, e con un pronto soccorso ovviamente degli animali. Era gestito da un gruppo di compagni giovanissimi LGBT che stavano lì a fare l'anestesia. Ho visto delle cose che veramente, ho fatto le fotografie proprio appena c'è tempo, lo descriverò. E ho parlato con questo chirurgo, un chirurgo di altissima specializzazione, perché evidentemente anche quell'operazione era, e lui mi ha detto: io solo qui posso dare valore alla mia professione, perché cose così non le incontrerei certo in una clinica privata. Dopodiché, se c'è da posare il bisturi e prendere il fucile per difendere il mio paese, io lo farò. Questa è la motivazione che ha la gran parte del popolo venezuelano, ed è per questo che in 20 anni, nonostante mi abbiano fatto di tutti i colori, perché io stavo lì quando c'è stato il sabotaggio elettrico, condividendo le cose, eravamo senza luce, senza acqua, senza niente, senza mezzi di comunicazione, e con la paura molto presente ancora adesso che ci potessero prendere uno per uno, farci fuori e raccontare, come sempre fanno quando ammazzano i compagni, soprattutto le donne, che era una banale questione della sicurezza, no? Le donne, per esempio, i femminicidi politici aumentano in Venezuela perché le donne hanno l'80% delle strutture di base, sono quelle dei liberi, cioè sono le compagne, cioè la rivoluzione bolivariana è socialista e femminista, ce l'hanno nella Costituzione, l'unica Costituzione, credo, al mondo che è declinata nei due generi, al maschile e al femminile. Non troverete, non sentirete mai un dirigente che non dica prima, che non dica che i due generi. È anche molto forte il movimento LGBT, che quando non riesce a far passare leggi da una parte le fa passare in un altro modo, quindi sì, è proprio grazie a questa formula molto particolare che esiste in Venezuela, però sono queste le forze che contano, ed è per questo che l'organizzazione popolare, essendo forte e motivata, finora non ce l'hanno fatta. È la variante che non considerano, cioè la forza, la coscienza organizzata dei settori popolari, che non vogliono tornare indietro, perché lì contano davvero, cioè lì non è che il presidente può mettersi a decidere qualcosa. Se voi avete visto qualche immagine del 1° maggio, era straordinario, c'è stata una marcia che era 17 km di persone per rispondere a queste aggressioni imperialiste e dire: da qui non si passa. Poi se ne dicono in tutti i colori, perché quello che tu hai detto di Maduro è niente rispetto a quello che Maduro si sente dire, o che qualunque dirigente si sente dire quotidianamente in un'assemblea. Cioè non è, cioè, altro che dittatura, cioè lì c'è anche molto, come dire, a volte più approssimazione, perché sono altri parametri che vivono, però non è neanche l'Unione Sovietica, non è neanche Cuba, e non c'è, diciamo, un qualcosa a cui potrebbe riferirsi, perché è un strano laboratorio che si è messo in campo, in cui precipitano tante interessanti questioni risolte nel Novecento, nel movimento operaio. Per esempio, lì la relazione tra autogestione e statalizzazione è molto forte, cioè altro che il caracollo e il zapatista. Cioè, tanti compagni, per esempio, che piacciono il zapatismo, ma andassero lì, altro che, perché i consigli comunali sono questi, le comune è stato gestita, hanno monete alternative, sono riusciti a sopravvivere appunto alla guerra economica, al sabotaggio e all'accaparramento dei prodotti, proprio così, perché i pescatori commerciano con i pescatori, perché va la piccola produzione, cioè tutte le cose che qua diventano cose quasi esotiche, perché siccome non c'è un governo amico, o c'hai qualche esperimento che funziona a livello comunale, ma poi arriva il giudice che toglie l'occupazione, oppure cambia il municipio e ti azzerano tutto. Lì no, perché appunto per esempio, un altro aspetto estremamente interessante, confrontato alla concentrazione monopolistica dei mezzi di informazione, sono i mezzi alternativi della comunicazione. C'è una legge, siccome appunto oltre l'80% dei mezzi, dei media sono nelle mani dei privati, si è sviluppato per legge un sistema di mezzi alternativi, radio libere, televisioni condominiali, tutto quello che è, che sono coperti da una legge che adesso sarà ulteriormente migliorata nel lavoro che sta facendo l'Assemblea Nazionale Costituente, e che prevedono il finanziamento totale. Per esempio, questo posto potrebbe avere un suo giornale, una sua radio, una sua televisione finanziata dallo Stato, con una sola condizione: che oltre il 70% dei contenuti deve essere prodotto dal quartiere, cioè non può essere burocratizzato, eccetera. E questo ha prodotto un fattore estremamente interessante. Voi sapete che le chiese evangeliche, nella loro parte reazionaria, soprattutto sono molto diffuse in America Latina, sono delle vere potenze per quel che determinano, come hanno fatto in Brasile, ma non solo, i destini dei governi, no? Bolsonaro, che come ha vinto, ha avuto l'appoggio di queste chiese. Ci provano anche in Venezuela. C'è una parte, però non è la parte più reazionaria, la parte più reazionaria è chiaramente schierata contro, così come sono schierati contro i vertici delle gerarchie ecclesiastiche, che sono un vero e proprio partito politico, però c'è un'altra parte che compete a livello popolare con il socialismo bolivariano nei quartieri. La legge non vieta a chi avesse una qualche religione, lì ci sono tutte le religioni in Venezuela, di avere le proprie radio comunitarie. E cosa succede? Che questi naturalmente vorrebbero imporre alcune modalità culturali e di costume che sono contro la libertà delle donne, no? Ma non funziona, non funziona, perché lo scontro di egemonia, visto che le compagne sono quelle che dirigono la maggioranza di questi organismi, e anche a livello di potere, 3 dei 5 poteri sono diretti da donne, adesso fino a pochissimo tempo fa, per esempio 4 su 5 esponenti del CNE, del Consiglio Nazionale Elettorale, l'autorità elettorale, di vertice sono donne, tant'è che per esempio quando questi fascisti venezuelani attaccavano le istituzioni, tentarono di bruciare la casa della presidente di Pisai Lucena con tutta la sua famiglia dentro, gridando brucia strega brucia, cioè gli insulti di genere caratterizzano la polemica tra virgolette politica dell'opposizione, che ha chiamato a più riprese questo la nostra lupa quando è stato il presidente del Parlamento di opposizione. Parliamo del vicepresidente dell'Internazionale Socialista, attenzione, era le sue battute principali era che la massima autorità elettorale, appunto il CNE, era un postricolo gestito da prostitute. Questo era il rispetto per le istituzioni che hanno questi personaggi che vengono decantati dalle nostre parti come grandi difensori di democrazia, cioè sono persone che hanno un curriculum, chiunque lo può verificare andando a vedere su internet le loro gesta. Questo Guaidó è rimasto famoso per aver mostrato le chiappe durante le manifestazioni, ma hanno un corrido golpisti di tutto rispetto, sempre gli stessi. Questo Leopoldo López si era reso protagonista, ci sono video in internet di un assedio all'ambasciata cubana nel 2002 con tutte le famiglie dei cubani dentro, eccetera, insieme a Enrique Capriles, che è stato candidato contro Chavez e poi contro sempre perdente e poi contro Maduro. Personaggi amnistiati da Chavez dopo il colpo di Stato del 2002, che continuamente sono stati messi fuori anche dal carcere e che abbiamo visto avere un trattamento privilegiato non solo sui nostri media, ma anche da parte dell'ex centro-sinistra, perché mentre qua prendiamo l'esempio di Leopoldo López, no? Questo qui l'hanno messo agli arresti domiciliari dopo essere stato un veterato golpista che ha diretto le violenze fasciste anche nel 2014, eccetera, è stato messo agli arresti domiciliari dopo pochissimi anni. La prima cosa che ha fatto è stato fare un appello al golpe convocando i giornalisti. L'hanno rimesso dentro per soli 15 giorni. Ora io vorrei far notare almeno 2 episodi, cioè un nostro compagno, dopo essersi fatto 25 anni di carcere, ha partecipato soltanto da un marciapiede al funerale di un suo caro amico che non avrebbe potuto vedere perché il suo tragitto, che gli imponevano le misure di sorveglianza particolare per aver avuto il lavoro all'esterno, glielo vietavano. Ed è stato rimesso in galera per altri 3 anni, nessuno ha protestato, men che meno le sinistre dalle nostre parti. Jean-Marc Guyane in Francia, dopo essersi fatto anche lui un pacco d'anni di galera, è uscito da un'intervista al giornale dove non diceva ricominciamo a fare la lotta armata, ma raccontava alcune cose che erano successe in quegli anni. È stato rimesso dentro con il divieto totale di parlare. Nessuno di questi sinceri democratici che chiede galera nelle nostre sponde ha detto: oh, ma se tu esci fai un appello al golpe, mi sembra evidente che stai facendo qualcosa contro lo Stato. No, difendiamo il signor Leopoldo Lopez. Cioè io, quando c'è stata l'ultima Leopolda a Milano, a un certo punto uno di questi golpisti che vengono qua con i soldi nostri e girano in alberghi di lusso e poi dicono che in Venezuela hanno fame, eccetera, eccetera, ha presentato a Renzi la traduzione di un librino di Leopoldo Lopez dal carcere, no, questi si credono tutti, Bene, fatto da una casa, pubblicato da una casa editrice che di certo non era di sinistra. Dopodiché Renzi si è adoperato, come ha fatto tutto il PD in questi anni, purtroppo, per dire che loro avrebbero assunto fino in fondo la battaglia per questo sincero democratico, eccetera, eccetera, e ha mostrato il libro alle folle. Quando ha mostrato la copertina c'era Leopoldo Lopez, che certo non è un uomo di sinistra, che faceva un pugno. Capite fino a che punto arrivano a intorpidire i cervelli già abbastanza disastrati delle nostre sinistre? E quello, se lo vedeva Trump, ovviamente gli avrebbe tagliato i finanziamenti, perché tutto si poteva dire, però la CIA fa anche questo lavoro. Cioè c'è anche questo tipo di lavoro, come ci ha spiegato tante volte anche per esperienza diretta al capote, no? Ed è a questo livello che ci dobbiamo forzare. Bene. L'ultima domanda. L'ultima domanda. Mi ha ovviamente, mi ha anticipato ovviamente un paio di temi. Uno è quello relativo al fatto che ero molto interessato a capire qual è il livello operativo spiccio della vita di tutti i giorni, perché poi scendendo dal livello ideologico alla quotidianità, la domanda è: ma i venezuelani, al di là della maggioranza, della minoranza, dell'opposizione, sono consapevoli, uno, del loro posto nel mondo, perché non mi è molto chiaro il modello economico, sociale, di diritti che abbiamo, perché abbiamo, che hanno loro, perché abbiamo evidentemente troppo poche informazioni su come funziona proprio il senso dello Stato, la loro organizzazione dei beni comuni, tutto quanto, eccetera. L'abbiamo avuto da Cuba, perché ovviamente frequentiamo questo posto, ma a Venezuela non c'è l'associazione Italia-Venezuela. Ci sarà tra poco. Mi sembra di capirlo. Allora, uno, se hanno la consapevolezza del modello sociale e socio-economico in cui abitano. Due, se nella contingenza attuale hanno la consapevolezza di essere invece i conigli che qualcuno vuol tirare fuori dal cilindro in senso geostrategico. E come se la pigliano, perché noi da queste parti facciamo una fatica bestiale a capire cosa sta succedendo. Ci si rizzano le antenne in testa, però poi non sappiamo cosa andare ad afferrare fisicamente per capirlo. Loro probabilmente hanno il problema opposto, cioè non sanno bene, mi sembra di capire, cosa succede intorno a loro. E vorrei avere un minimo di informazioni in più su un fatto assolutamente esemplificativo, che di nuovo hai citato anticipandomi, che è relativo al fatto di tutti questi blackout e problemi col sistema energetico che vanno avanti da un po' di anni e che sembrano ovviamente uno simbolo in un paese, di questo tipo, però di cui noi non abbiamo, io personalmente non ho capito assolutamente niente, né dal punto di vista dei lavoratori in senso stretto, delle loro rappresentanze, né dal punto di vista della proprietà stretta del sistema, né dal punto di vista dell'interferenza dall'esterno, perché ovviamente anche qui qualche sospetto nasce su come all'improvviso qualcuno abbia potuto, voluto o sia riuscito a staccare la spina. Sì, evidentemente sono queste le cose che dobbiamo chiederci, no? Intanto è molto importante fare chiarezza, avere perlomeno alcuni dati di contesto e alcuni parametri di riferimento che ci consentano di tradurre nella nostra facoltà di comprendere quello che sta avvenendo lì, che non è facile, insomma, certamente, perché per le ragioni a cui stavo accennando. Vi faccio un esempio. Io ho partecipato, non solo io, ma tanti osservatori, anche italiani, hanno accompagnanti, li chiamano loro giustamente dicono non abbiamo bisogno di essere osservati, siamo nel nostro, a questi processi elettorali, che a parte che bisogna essere assai specialisti, perché loro ci lavorano tutto l'anno, cioè intorno alla partecipazione, all'organizzazione del processo elettorale, ci lavorano fabbriche di operai per costruire queste macchinette e aggiornarle, che sono un po' come le macchinette per pagare la, che ci sono nei negozi per pagare la, con il bancomat, no? Altamente informatizzate, collegate a un sistema di informatico di altissimo livello, considerato a prova di frodi da chiunque, tanto che il centro Carter poi ha fatto una lode pubblica, anche perché queste macchine peraltro si comprano negli Stati Uniti, quindi insomma, ma c'è una, un livello di possibilità di confrontare questi dati da parte di tutti i cittadini. Per esempio, chiunque può andare a fare, anzi deve andare a fare delle simulazioni per rendersi conto in concreto di cosa sia il procedimento di voto, no? Quindi è tutto un c'è una parte di economia anche che si regge sulla partecipazione a queste elezioni. Già hanno un loro museo, perché in 20 anni queste macchine si sono perfezionate, così come cambiava la tecnica, le capacità scientifiche aumentavano, sono cambiate anche i modelli di macchinette, no? Se vi capita di andare a Caracas, andate, perché è estremamente interessante, perché poi le persone che spiegano come funziona, ti spiegano anche che cosa sono stati i cambiamenti, loro si appassionano a queste cose, e a spiegartelo sono gli operai delle fabbriche, non è che arriva lo specialista X. Cioè, la cosa bella di quel procedimento, e la prima importante cosa, è che il sapere si è diffuso a livello popolare, anzi possiamo dire che è il livello popolare organizzato che produce queste forme di sapere. Per esempio, quando dopo il golpe del 2002 c'è stato un lungo sciopero, una lunga serrata padronale, i tecnici della Quarta Repubblica sono scappati portandosi via i codici di accesso alla Pedevesa, cioè l'impresa petrolifera di Stato che regge tutta la comunità, grazie alla ridistribuzione dei proventi della Pedevesa che si sono potuti fare i piani sociali che si sono fatti fino adesso e che hanno continuato ad essere mantenuti anche quando il prezzo del petrolio è caduto a 30, a 150, quindi immaginiamo cosa vuol dire per diciamo, il bilancio di una famiglia passare oltre 130, e il Venezuela ha continuato a mantenere oltre il 70% dei suoi introiti a destinarli ai piani sociali. Ma quando questi se ne sono scappati con questi codici, sono stati chiamati gruppi di hacker, che sono compagni, che hanno trovato questi codici. Tra l'altro il compagno più rappresentativo è stato ammazzato dalle bande paramilitari proprio 2 anni fa, perché l'aspetto, per esempio, della democratizzazione delle nuove tecnologie, noi qui facciamo ogni tanto in qualche centro sociale i congressi degli hacker, ma lì quello è un pezzo del lavoro politico. Per esempio, ci sono vari forum che si chiamano forum Candanga, che fanno un lavoro per esempio sui mezzi alternativi del web, sulle fake news, sull'uso delle nuove tecnologie a livello, sono molto avanzati da quel punto di vista lì, sono molto avanzati a livello popolare. E questo è un dato, per esempio, strano, perché uno dice da una parte un paese del sud che ha dei problemi proprio di tecnologie, perché non ci sono fabbriche che siano in grado, ci sono tante fabbriche che siano in grado di essere autonome, perché per esempio per comprare dei pezzi succede come per Cuba, che li fanno pagare, devono pagare anticipatamente, devono pagare 3 volte o 4 volte di più il prezzo, adesso poi con le sanzioni non gli permettono neanche più di pagarli, e quindi logicamente questo rallenta, perché se devono scegliere se privilegiare la cultura, i piani sociali, eccetera, eccetera, chiaramente a subire dei ritardi sono quegli aspetti che sono propri dello sviluppo, di uno sviluppo che dovrebbe essere all'altezza di quello che è il mondo globalizzato oggi, no? E ci sono, cioè manca una vite e tu non puoi aggiustare un macchinario importantissimo, e succede, è successo proprio questo. Quindi, per esempio, se noi dovessimo, questa è una parentesi, immaginare in solidarietà militante che dovremmo mettere in campo per il Venezuela, da una parte sarebbe prima di tutto, ed è, dovrebbe essere di interesse nostro, andare a lottare contro le sanzioni, cioè sbugiardare questi meccanismi che hanno come sempre nome e cognome, sia per Cuba ma adesso per Venezuela ancora di più. Per esempio, noi siamo andati a fare con il neonato forum di difesa del Venezuela, siamo andati a fare una manifestazione a Roma davanti all'ambasciata inglese, perché le banche della Gran Bretagna stanno letteralmente rubando l'oro del Venezuela con delle operazioni di vera e propria pirateria internazionale. Cioè questo Guaidó e i suoi soci nordamericani, attraverso delle truffe, per quello che è importante quello che stava dicendo Giovanna, di queste aggressioni assolutamente illegali che stanno facendo addirittura le ambasciate, no? Mettere qua i loro fantocci come se fossero veri ambasciatori, perché si portano via i soldi. Cioè così hanno bloccato la raffineria Citgo in Nord America, che è quella tra l'altro che ha dato per tanti anni al Bronx la possibilità di scaldarsi gratuitamente, perché Venezuela regala il petrolio al Bronx, se no possono togliere il Bronx, possono scaldarsi tanti altri carburanti, eccetera. Bloccato per la raffineria, cioè il Venezuela produce un petrolio pesante che ha bisogno di essere raffinato, quindi per raffinarlo cioè ci sono dei problemi di viaggio per portarli nei paesi amici, eccetera, e c'era questa raffineria, una delle più importanti, che già era stata messa sotto sanzioni quando c'era Chavez, ma adesso addirittura gli stanno praticamente stornando i fondi in un'operazione che richiede naturalmente la complicità di banche, quindi quanto di più illegale ci possa essere, però i soldi vanno a finire nelle tasche di questi golpisti venezuelani, che oltretutto si fregano proprio, perché per esempio gli scandali che stiamo vedendo adesso di queste presunte truppe che hanno pagato per far vedere che nell'esercito bolivariano c'erano delle falle, adesso stanno protestando disperati perché invece li hanno buttati fuori anche da un hotel al confine colombiano a Cucuta, perché non pagavano, perché questi si sono presi i soldi del Venezuela, tra l'altro trafugati dalle banche venezuelane, e se li sono intascati, non li hanno pagati, quindi questi con le loro famiglie a cui avevano promesso milioni di dollari si trovano in mezzo a una strada. Cioè questa è, sono dei veri e propri truffatori questi qua, vogliono ricamerare i soldi, se prendi i soldi e scappa. Là che cosa possiamo fare per saperlo? Beh, da un punto di vista classico, diciamo così, di sicuro si sono nazionalizzate le principali imprese, non si sono però nazionalizzate tutte le banche, questo è un problema, non si è nazionalizzato ancora il commercio estero, perché essendo il Venezuela un paese che sta sul mercato globale, finanziario, economico, eccetera, eccetera, anche la questione per esempio del debito estero, c'è una parte della sinistra di base che dice ma perché continuiamo a pagare il debito estero quando invece si potrebbe, il Venezuela si è sempre pagato. Quindi la questione delle sanzioni è ancora più scandalosa, perché è un paese che ha sempre onorato i debiti nei confronti di chiunque andasse a fare affari con il Venezuela. È complicato perché tra i paesi debitori ci sono anche Russia e Cina, che sono debitori però in un altro modo, cioè in una maniera non asimmetrica, eccetera, eccetera. Però è complicato guardare a un paese oggi, già la questione del socialismo in un paese solo era complicata, analizzare ai tempi dell'Unione Sovietica con quelle dinamiche che c'erano allora a livello globale. Figuriamoci oggi, quando un sistema mondo completamente globalizzato, dominato prevalentemente dal capitalismo, si impedisce di staccare dei gangli, a meno che non ci sia un intero continente, che è stata la partita che si è giocata con l'ALBA, con la costruzione di meccanismi alternativi di interscambio molto diversi, che hanno portato dei risultati grandiosi in tutto questo periodo. Però questo è stato anche uno dei motivi per cui l'imperialismo ha dovuto mettere uno stop. Che cosa possiamo capire noi del Venezuela? Queste cose semplici che hanno portato a una ridistribuzione delle risorse e ci hanno mostrato che si può fare, cioè che non è vero che si va in fallimento se un paese, come ci raccontano qua, no? Che la crisi la dobbiamo pagare sempre noi, e che, come stanno cercando di dire le destre, se Maduro aumenta i salari provoca la crisi, no? Che questa è nell'ottica dell'economia borghese, che assolutamente non funziona già di per sé, ma che ancora meno funziona in un paese che ha messo il socialismo al centro delle sue politiche, perché è il fattore, come sta spiegando sempre Pasqualina Curcio, il fattore dei salari, interviene nella questione dell'inflazione in una maniera che è direttamente proporzionata ad altri fattori. Non può succedere se non in un'economia tanto distorta come quella, e pervertita da altri fattori come quella venezuelana, che ancora prima che si sospetti un altro annuncio di aumento dei salari, i prezzi schizzano del 100% alle stelle, perché questo è visibilmente una cosa che non esiste neanche nel manuale dell'economia, perché nessuno l'ha ancora annunciato, però loro sapevano che si sarebbe arrivato a quello, cioè un controllo, un aumento dei prezzi totalmente fuori anche dalle leggi economiche. Da notare che in Venezuela questo livello di inflazione, anzi ancora di più, ce l'aveva già nel Quarta Repubblica. Cioè Venezuela è un paese che ha accumulato distorsioni, e queste distorsioni si sono create quando c'era il sistema capitalista, e che per esempio nel 1989, subito dopo la caduta dei paesi del campo socialista, c'è stata una rivolta che è passata alla storia come la rivolta del Caracaso, quando l'allora presidente di centro-sinistra, Carlos Andrés Pérez, ha accettato i diktat del Fondo Monetario Internazionale, aumentando le tariffe dei servizi, eccetera, eccetera, e la gente è bufalita, i poveri sono scesi, perché non avevano neanche la carta d'identità, sono scesi dai barrios, dalle colline, hanno cominciato a saccheggiare il paese. È stata una rivolta spontanea che si sarebbe potuta riprodurre centinaia di volte rispetto a tutto quello che hanno fatto contro il Venezuela, contro il popolo Venezuela in questi anni, però non c'è stato. E quel presidente di centro-sinistra di allora ordinò all'esercito, che non era quello di Chavez, di sparare sulla folla, e ci sono stati tra i 2.000 e i 3.000 morti. Ancora si cercano gli scomparsi, che il governo bolivariano ha cominciato ampiamente a cercare, con una commissione che ha prodotto tra l'altro la più avanzata legge di recupero della memoria che si conosca, che si chiama la legge contro l'oblio, e che rivendica il diritto dei popoli alla rivolta anche armata e anche contro le democrazie campionate. Questo è, penso, l'esempio più avanzato che ci sia di recupero della memoria, cioè di non vittimizzazione del conflitto di classe. Se i venezuelani hanno coscienza della situazione in cui si trovano, dipende, nel senso che ci sono vari fattori. Il gruppo dirigente penso che abbia una politica estera, soprattutto diplomatica, molto, molto affinata. Sono stati molto bravi in tutti questi anni a creare, per esempio, delle relazioni internazionali antiimperialiste. Da queste parti non si sa, però il Venezuela ha diretto importanti commissioni all'ONU, sta presiedendo la seconda organizzazione per grandezza dopo l'ONU, che è il vertice dei paesi non allineati, cioè il movimento dei paesi non allineati, la NOAL, che ha avuto il suo vertice nel 2015. Io ci sono stata all'isola di Margarita, proprio nel pieno degli attacchi a Maduro, alla rivoluzione bolivariana, sono stati tutti i capi di Stato e i movimenti popolari del sud globale, moltissima Africa, anche presidenti purulenti di paesi petroliferi che non avrebbero certamente aderito al socialismo, no? Però sono stati portati avanti in quell'occasione importantissimi obiettivi, prima di tutto l'autodeterminazione dei popoli. C'erano i palestinesi, c'erano i movimenti per l'indipendenza di Porto Rico, c'erano i Sahrawi, e in quel momento sono state fatti pronunciamenti importantissimi sulla necessità di risolvere i conflitti non con le guerre ma con la pace e la giustizia sociale, che sono stati fatti e sottoscritti quindi persino da questi governi purulenti, la lotta ai paradisi fiscali, la libera circolazione delle persone e non delle merci e la parità di genere nelle questioni del lavoro. Quindi insomma sono state cose assai importanti, perché quando ci si mettono paesi realmente che stanno portando avanti un cambiamento reale come Cuba e il Venezuela, non diventano parole vuote. Lo abbiamo visto per esempio a livello internazionale in tutti questi vertici, che fino all'esistenza dei forum sociali mondiali vedevano i movimenti popolari stare fuori da questi vertici a protestare, perché dentro c'erano i padroni del pianeta che non lasciavano nessuno spazio alla luce popolare. Beh, c'è stato un famoso discorso di Chavez che a un certo punto, sentendo fuori le grida organizzate dei movimenti, si è fermato e ha detto: io qua non ci so a fare niente se non entrano loro. E da allora si sono messi in moto delle assemblee a livello globale, partendo dall'America Latina ma non solo, in cui i movimenti popolari fanno proposte, elaborano proposte che vengono poi portate a questi presidenti, amici diciamo, quando vanno nei vertici dell'ambiente, quando vanno. E lo slogan principale del Venezuela, che poi è stato assunto da tutti gli altri, è cambiare il sistema per cambiare il clima. Quindi è un deciso pronunciamento anticapitalista, al di là di prendere i problemi per la coda, no? Dividendo gli obiettivi sociali da quelli politici o i diritti civili da quelli economici, no? Come purtroppo si fa dalle nostre parti. Hanno quindi una nozione molto esatta dei rapporti di forza a livello internazionale. Sono stati bravi in questi anni. Maduro, tra l'altro, ha una grandissima esperienza come ministro degli esteri già prima, e poi è un compagno molto preparato, che da giovane ha fatto la scuola quadri a Cuba, è stato un operaio del metro molto stimato, è stato fin da giovane un dirigente studentesco. Insomma, aveva una storia totalmente diversa sia da quello di Chavez, anche se lo ha accompagnato sempre fin dalla ribellione civico-militare, però una figura totalmente diversa come profilo da quello che ci propinano dalle nostre parti, dove evidentemente è insopportabile che, come diceva Lenin, anche un operaio possa esigere lo Stato, no? Cioè, questo prima di tutto. Sono stati anche molto bravi nel dividere l'opposizione, perché in questi anni non sarebbero sopravvissuti. Cioè lì c'è una vena golpista dell'opposizione che non è mai venuta meno, che hanno cercato di contenere, e da notare che con il livello di controllo che hanno l'esercito popolare, le milizie che sono oltre 3.000 persone, avrebbero potuto stroncare questi episodi di violenza con 2-3 giorni. Cioè, non è che c'è bisogno di riferirsi a episodi lontani, possiamo pensare anche qua, cioè la repressione di massa è all'ordine del giorno nei paesi capitalisti, a cominciare dal Nord America, nessuno dice niente. Lì avrebbero potuto risolverlo davvero, non hanno fatto. Cioè la percentuale di morti che ci sono stati in questi anni di violenza sono stati per la maggior parte tutti dalla parte del cinismo. Ripeto, bisognerebbe guardare questo dato inquadrando nei rapporti di forza. Se fosse una dittatura non ci metteva niente, se fosse una dittatura prima di tutto non ci sarebbe oltre l'80% di mezzi di comunicazione nei mani dell'opposizione, prima di tutto, perché la prima cosa che hanno fatto i golpisti nel 2002, quando per pochi giorni hanno sequestrato Chavez, è stato quello di sospendere le garanzie costituzionali, di procedere a una repressione di massa assai generalizzata, tant'è che a dirigere quel colpo di Stato c'era il capo della Confindustria, Carmona Stanga, che andava a braccetto col capo della Confederazione Sindacale, che è l'equivalente delle nostre confederazioni sindacali, che erano già passati dalla parte del nemico da molto tempo. Questo era sintomo della crisi della borghesia in tutti quegli anni. Hanno una nozione molto chiara di quello che succede in Spagna, perché Spagna è un paese coloniale è perché si parla appunto la stessa lingua, però dell'Europa secondo me cominciano ad avere una nozione più esatta soltanto dagli ultimi anni, perché hanno sempre guardato prima di tutto quello che stavano costruendo in casa loro e secondariamente al continente latinoamericano. Si sa, e lo abbiamo provato anche noi, che quando un popolo è impegnato in casa propria a fare la rivoluzione, quando ha come imperativo categorico che l'internazionalismo prevede prima di tutto cambiare le cose in modo profondo nel proprio paese, fare la rivoluzione, dicevamo noi, nel secolo scorso, non ha tanto tempo per andare in giro a guardare cosa succede altrove, no? Quindi si sperimenta tutti i giorni, non ha neanche tanto tempo di ripensare su se stesso. Cioè i rivoluzionari fanno tante cazzate perché sono anche un po' prigionieri della loro lotta, no? Non parliamo di quello che abbiamo fatto noi all'epoca, però perché è proprio così. Cioè ogni giorno c'è un problema, ogni giorno si deve affrontare quel problema, ogni giorno si deve risolvere. Loro dicono sempre, con Simón Rodríguez, che è stato il maestro del Libertadores, Simón Bolívar, o inventamos o erramos, o inventiamo oppure ci fottono. Quindi solo che mentre inventi puoi anche fare, ovviamente, puoi avere di ritorno indietro, non è che nessuno di loro ha, anzi, l'arroganza di dire che hanno fatto tutto bene. Per esempio, quando c'è stato lì hanno il Partito Socialista Unito del Venezuela, che non è il partito unico, ce ne sono una marea di partiti in Venezuela, però è il partito che c'ha vista e quindi ha la maggioranza, no? Ci potremmo dire partito di governo. Non è un partito con una storia, cioè è un partito che è stato fondato nel 2007 per idea di Chavez e che ha messo insieme tutte le componenti che avevano deciso di criticare la sinistra e ufficiali e di sciogliersi nel... C'è stato un dibattito molto simile a quello che in proporzione c'è stato anche nelle nostre aree, solo che lì hanno avuto l'intelligenza di non imporre a quelli che non si volevano uscire, non si volevano unire in questo partito, di lasciare il loro simbolo, non gli hanno imposto di lasciare il proprio simbolo. Tant'è che per esempio il Partito Comunista ha mantenuto il suo, altre formazioni anche hanno mantenuto il loro, però si sono inventati il gran polo patriottico, cioè con una vasta area di alleati che sono alleati ferri, che hanno le loro, fanno i loro congressi, fanno le loro cose, però si sa che hanno tutti ben presente che non devono tornare alle destre e quindi vanno a governare insieme in alcune municipalità, governano quelli del Partito Comunista, anche non c'è, c'è una dialettica democratica anche lì, però con una grande invenzione che potrebbe esserci molto utile andare ad analizzare. Il Partito Socialista Unito del Venezuela è il più grande partito del Sud America, ha oltre 6 milioni di iscritti ed è, come dire, adesso, per parlare appunto di quella che è la loro comprensione degli errori, loro meno dell'Unione Sovietica, però hanno molto studiato anche la crisi dei partiti, prima di tutto dei partiti comunisti a livello latinoamericano, ma anche le socialdemocrazie, parliamo ovviamente dei gruppi dirigenti. Ma per esempio nel 2015, quando il chavismo ha perso le elezioni, si sono messi in discussione profondamente, ci sono stati diversi congressi eccetera, e hanno quindi criticato il burocratismo, guardato che i rischi di essere un partito, di stare per trasformarsi in un partito prevalentemente elettorale. Non hanno il feticcio delle elezioni, per esempio. Le elezioni sono quelle che, per quel che riguarda noi, potremmo dire una leva per far crescere la coscienza delle masse, non è l'unica cosa, anzi, perché per esempio l'autodifesa è, e quindi il dover forzare dall'interno le regole della democrazia borghese è un fattore molto presente. Non lo fanno con le armi perché dicono noi siamo una rivoluzione pacifica ma armata, perché chiaramente hanno già preso il potere, no? Quindi ce n'è, però la gente che viene, cioè sarà la metà del governo che vengono dalle guerriglie che negli anni passati, no? Da quel tipo di rottura con la democrazia borghese. Si sono messi in discussione questo partito, non solo ha vinto poi tutte le elezioni, ma ha diciamo sviluppato l'imperativo del governo di strada, quindi dell'organizzazione territoriale capillare di nuovo, hanno rimotivato i compagni e le compagne, hanno ridefinito relazioni con il gran polo patriottico, cioè con gli alleati, e io ho assistito agli ultimi congressi del partito, e veramente il livello era elevatissimo, soprattutto sono riusciti a far passare una legge per cui la metà, o appena sotto della metà di tutti i candidati alle elezioni deve essere donna, e oltre il 35% giovani sotto i 30 anni. Quindi questo, tra l'altro, i giovani, beh, lì l'America Latina in media ha una popolazione giovane, però la cosa più straordinaria in Venezuela è che tu vedi ragazzi, cioè nel congresso del Partito Comunista il più giovane delegato aveva 15 anni ed era un quadro politico vero, cioè vedi dappertutto, prendo il microfono nelle manifestazioni, che organizzano soprattutto la resistenza popolare. Quando per esempio sono stata lì con questa faccenda dei sabotaggi, neanche dopo 10 minuti arrivavano le pompe dell'acqua, cioè io vivevo con dei compagni del partito in una delle più grandi urbanizzazioni di case popolari, no? Sono state 17.000 persone, una cosa incredibile, si chiama Ciudad Tuna, e dove nel giro di pochissimo è arrivato il partito, tutte donne, che mettevano, diciamo, che gestivano, perché nelle case popolari c'è tutto, cioè sono gli emarginati che non avevano niente, come da noi, che hanno avuto le case popolari, e però che devono fare un percorso anche, non è che quindi puoi trovarti la prevaricazione, c'è gente che ruba, scorta via le pompe, cioè succede purtroppo, anzi ci sono anche quelli che ti mettono i cartelloni per la destra, e anche lì c'è un problema appunto di egemonia, di come lavori per far crescere la gente tua, eccetera eccetera. E quindi immediatamente si è cambiato tutto, e si sono visti degli episodi di solidarietà molto belli, anche di gente che si sapeva che non era del partito, che però di fronte alle difficoltà e quando la generosità fa premio sull'egoismo, condividevano le cose, cioè quello è un paese caraibico per cui il caldo ti obbliga a tenere nel congelatore le cose, ma se tu sei senza luce da un bel po' di tempo ti va tutto a male, quindi la gente metteva in comune quello che aveva, non c'erano neanche le candele, ma stavano fuori a fare grandi feste, insomma immediatamente loro, a differenza della tuttiosa Europa, sono molto vitali, sono molto allegri, cioè questo discorso dell'amore, della fratellanza, perché il discorso del Cristo, delle origini e della teologia della liberazione fa parte dei cardini di quel partito. C'hanno Lenin, c'hanno Mao, c'hanno tutti i padri storici, però c'hanno anche la teologia della liberazione, no? Che per alcuni è un limite, perché ha fatto in modo che Chavez, dopo il colpo di Stato, tornasse anziché far piazza pulita, come avrebbe potuto fare di quelli dei golpisti, non solo gli ha dato l'amnistia, ma è tornato con il crocifisso nella mano e la Costituzione nell'altra, no? Quindi questa è, diciamo, l'orientamento prevalente che c'è in Venezuela. Immediatamente si è messo in moto la grande macchina organizzativa delle persone, cioè del potere popolare, che effettivamente funziona perché è, come dire, c'è proprio la coscienza di questo. Dopodiché, per esempio, l'ultima cosa che vi dico, c'è stato, quando sono stata lì l'ultima volta, quindi parliamo di 10 giorni fa, un grande forum internazionale della Gran Missione Vivienda Venezuela, che è questo progetto di case popolari che dal 2011 adesso ha già consegnato case popolari ammobiliate gratuite per oltre 2.600.000 di casa, insomma, no? Quindi sono progetti giganteschi, non di cementificazione del paese, ma di urbanistica partecipata, cioè sono le persone, sono le comunas, sono i consigli comunali che decidono dove stanziare le risorse, dove si devono costruire questi agglomerati, e sono le imprese, di solito piccole, locali, che lavorano, cioè questa è quella della costruzione di case popolari, anche un formidabile strumento di crescita economica per la gente, per i compagni. E mi sono resa conto, io ho fatto soprattutto sono andata lì per le brigate della comunicazione in solidarietà internazionale, ho trovato lì BRICS, il CONEICOP, che è sempre il Consejo nazionale e internazionale della comunicazione popolare, no? Sono due articolazioni di cui magari poi vi parlo, che servono per contrastare la guerra mediatica, portando da una parte lì le esperienze che ci sono qui e dall'altra parte fare una sorta di traduzione che risponde esattamente alla domanda che stavi dicendo tu, no? E quindi ho fornito dei dati di come effettivamente noi che siamo stati un paese che grazie alle lotte degli anni 70 degli operai siamo riusciti a sviluppare un welfare piuttosto forte, che ci hanno stroncato soltanto non da moltissimo tempo, e le case popolari erano uno degli assi importanti, no, delle politiche del lavoro, perché il datore di lavoro doveva farlo, doveva contribuire, ancora adesso dovrebbe, però ovviamente non lo fa, perché con i processi di privatizzazione le grandi immobiliari hanno preso corpo, eccetera, eccetera. E man mano che i compagni sentivano questi dati, rimanevano con gli occhi spalancati, perché non lo sapevano. Cioè, anche loro sono vittime della propaganda che dipinge l'Europa come il paese di Bengodi e che fa credere che naturalmente loro, è incredibile che un paese così ricco sia ridotto a dover assumersi queste difficoltà. Loro erano abituati, non loro, il popolo non aveva niente, però i grandi ricchi, cioè, consumavano, perché il modello è quello degli Stati Uniti, no? Il modello, cioè, si trova la Coca-Cola, si trova l'acqua, si trovava la Coca-Cola, e quindi sì, non hanno lo stesso livello di consapevolezza anche teorica di Cuba, che ha studiato forse più di noi quello che sono i meccanismi del capitalismo e anche del fallimento dell'Unione Sovietica. Loro no, anche perché i poveri mai hanno viaggiato, soltanto Chavez, quando effettivamente si è riusciti a, in un periodo anche favorevole di congiuntura economica, no? Ad avere tanti soldi a disposizione delle classi popolari, lui aveva messo che gratuitamente si potesse avere, che ogni famiglia potesse avere per ogni anno $3,000 da spendere per i viaggi. Cioè, una cosa, finché non ci sono i dollari a prezzo agevolato, non dovevano presentare delle motivazioni per poter viaggiare, e ci avevano questi soldi a disposizione. Che cosa è successo? Siccome non hanno un livello di sviluppo dei bancomat come da noi, che hanno in quegli anni trovato la forma più evidente per sottrarre denaro pubblico allo Stato, portarselo fuori. C'erano finti viaggi organizzati, a me è successo tante volte di non riuscire a comprare un biglietto aereo perché dicevano che era tutto pieno, ti facevano dei prezzi giganteschi e quando riuscivano ad andarci l'aereo era vuoto, perché erano viaggi fantasma, erano questi qua che dicevano di andare a fare un viaggio, che in verità con tutto un sistema che avevo anche scritto, andavano semplicemente a Cucuta o in Perù, da qualche parte, dove i negozianti consapevoli gli svuotavano la carta di credito e quindi ricominciavano a fare la stessa cosa. Quindi è stato un altro dei sanguinamenti del paese, cioè, però chi aveva viaggiato mai, chi poteva conoscere un povero che non sapeva niente, anche perché non sapevano leggere e scrivere, cioè gli indigeni e la maggioranza dei popoli non avevano neanche una carta d'identità, mica votavano quelli, mica se, come dire. Quindi una volta che hanno cominciato ad avere questo livello di benessere, a poter viaggiare, a poter studiare, per esempio il Venezuela paga all'estero tutti gli studi gratis di chi vuole andare a fare l'equivalente dell'Erasmus, per dire, no? Che è molto, vai da qualunque parte del mondo, ti pagano tutto. Cioè in Venezuela tu hai il computerino fin dalle elementari, poi c'è il computer quando sei più grande nelle scuole superiori, e hai l'iPad quando sei all'università. Lo forniscono anche agli insegnanti con dei percorsi di aggiornamento automatici interni, di modo che quando vanno a fare lezioni possano avere un supporto che gli vieti di fare corsi inutili oppure, diciamo, viaggi e spese, eccetera, eccetera. Quindi sono, però anche lì sono confrontati al fatto che tutto il sistema accademico non è stato riformato, nel senso che loro quello che sono riusciti a fare è costruire università a lato, però le destre continuano a mantenere salde i vertici di alcune, anzi di molte università tradizionali, e guardate che il Venezuela finanzia anche le scuole private, questa è la cosa, quindi manco a dire che vi dovrebbero fare qualcosa perché c'è questo problema, no, li finanzia purtroppo anche le scuole private, però queste grandi consorzi accademici, che sono quelli che contano qua, per esempio, sono tutti di opposizione. Le estreme destre hanno il predominio qui in Italia soprattutto dei media, delle accademie, ci sono state dappertutto delle vergognose conferenze eccetera in cui hanno invitato questi gruppisti, io ho assistito ad alcune di grandi, organizzate dai grandi costruttori abruzzesi che votano tutti per esempio per il PD, che sembrava un insieme di mafiosi, sembrava di essere un film di Coppola, in cui sono arrivati persino a negare che esistesse il piano di case popolari gratuite, che insomma neanche la borghesia lo può, però era un tale livello di menzogne inenarrabili, e in cui loro erano angioletti, c'era il padre di Leopoldo Lopez, quindi c'era la figlia di Ledesma, ma questa gente ha delle solide letterature qua. Noi ospitiamo tutta questa gentaglia, cioè alcuni stanno a Firenze, altri stanno, non so, gli appoggi in Vaticano, e questi qui attraverso le università, quel tipo di accademia, egemonizzano. È chiaro, fanno cultura, è chiaro, fanno opinione pubblica, è chiaro, e vengono fatti fallire. Noi tutte le volte che facciamo quelle iniziative regolarmente arrivano, fanno finta di voler intervenire per interloquire, in verità hanno come obiettivo di farti fallire l'iniziativa, farti un filmatino, mandarli in giro e dire che tu sei antidemocratico, mentre sono loro che si piazzano nei lati della sala e cercano di intervenire a manetta per evitare che tu poi innalzino i soliti cartelli, eccetera, eccetera. Questa è la loro politica. L'ultimo viaggio, tra l'altro, pagato caro per via del sabotaggio delle grandi compagnie aeree, che adesso bloccano tutti i voli, eccetera, Air France ha cancellato il mio per l'ennesima volta, ho dovuto fare 48 ore di viaggio, con una sosta di 7 ore a Lima, e anche mi hanno pure perso il bagaglio, ma a parte questo, nell'aereo su per Panama c'era pieno di questi fascisti, che facevano una propaganda, perché poi erano in coda per uscire, sistematica, e la propaganda era: in qualunque paese del mondo ci sono venezuelani, l'imperativo è terrorizzare il chavismo, terrorizzare chiunque sostenga, queste le parole, cioè questi sono, voglio dire, hanno avuto un mandato ben preciso, lo vediamo dappertutto, adesso poi con questo fatto dell'autoproclamato appunto arrivano a imporre, cioè in Svizzera, in Francia, dappertutto, sono quindi ancora una volta l'invito è alla resistenza, resistenza culturale, quindi essendo capaci di spiegare ai nostri compagni prima di tutto, perché anche nelle nostre funzioni, nei nostri dei centri sociali, eccetera, non c'è la più lontana idea di quanto sia diversa la realtà che raccontano i media da quella reale, l'invito ai miei compagni si facciano le proprie fonti, i propri contatti e vadano, perché anche lì noi dovremmo organizzare delle brigate di solidarietà o dei viaggi come si sta facendo con Cuba, ma con l'idea per esempio di andare proprio a fruttare i saperi, e che noi possiamo anche a distanza fare delle conferenze con gli operai organizzati, tutte le cose che quasi sono abbandonate e che lì si fanno andrebbero fatte conoscere. Perché molti compagni sinceri, se le conoscessero queste cose, si renderebbero conto che stanno cadendo in una trappola mostruosa, i compagni sinceri. Poi il resto è lotta, perché altri non sono sinceri affatto, hanno le loro rendite di posizione nel farci pensare che non ci siano alternative al capitalismo, perché se no, come dire, quanti mezzi ci avrebbe l'Italia, eppure siamo diventati un paese di servizio, in cui i nostri ex marchionne se ne vanno a delocalizzare nei paesi del sud, dove non devono rispettare le leggi del lavoro ancora meno di quanto non facciano da noi. Siamo un paese cameriere ormai, no? Eravamo un paese industriale, e poi ci fanno credere che la crescita sia finanziare le imprese, come se la simmetria tra capitale e lavoro ormai fosse scomparsa. Non è così, perché i salari non si aumentano, le pensioni non si aumentano, anzi si tagliano, cioè non c'è più futuro, è un paese che invece questo futuro lo sta costruendo. Si dimostra che è possibile anche in una condizione di attacco così grosso, che dice che c'è un'altra strada da quella che ho preso in Grecia, cioè che però logicamente quando ti tocca te lo devi assumere, e se ti tocca e te lo devi assumere non puoi far finta di non vedere che in questo paese si è provato a fare delle cose negli anni passati e andrebbe analizzato perché non ce l'abbiamo fatta, dove abbiamo sbagliato, però con il metro storico, perché se no l'idea che sia ancora possibile cambiare le cose a livello strutturale viene proprio cancellata da quella delle possibilità. E guardare alle esperienze fatte senza infringimenti è il presupposto per costruire il futuro. Bene, abbiamo parlato di Venezuela, ma tanto anche di casa nostra, e forse ci serve a questo sapere cosa fa succedere in Venezuela per capire un pochino cosa succede anche da noi.